Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati, Radio 24, Voice Anatomy. Domenica 17 luglio, qualcuno sarà sotto l'ombrellone, noi siamo qui davanti a un microfono per continuare a farvi compagnia, visto le grandi gratificazioni che ci state regalando. Noi andiamo avanti imperterriti. Oggi è una giornata anche questa importante, nasce Milva, la tigre di Cremona, e il grande Donald Sutherland nel 17 luglio del 1935, papà magari del più famoso in questo momento per i giovani, Kiefer Sutherland. C'è una famiglia di grandissimi artisti, ma noi cominciamo subito a conoscere la prima artista di quest'oggi. Siete ormai abituati, sapete perfettamente che l'inizio della trasmissione vede sempre protagonista la voce attraverso i nostri attori, doppiatori più bravi del mondo, perché ricordiamo sempre che si doppia in tutto il mondo. E oggi è il turno di una donzella, ne abbiamo tante di così brave, lei l'ho strappata al mare, non so quale mare, ma lei è una doppiatrice e ha svolto la sua attività, e svolge tuttora prestando la voce in molti film e telefilm, dando la voce a personaggi importantissimi. E non voglio dire nient'altro, voglio farlo presentare a lei, una voce particolare, anche perché se la chiami di mattina gli chiedi scusa, mi passi tua sorella per favore, perché la voce forse è più bassa di quella mia e di Alessandro Rossi e di Massimo Corvo. Lei è Alessandra Cassioli. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. No, non puoi farlo, ma non ti alleggerire, no. Non aver paura. La voce, per carità. La voce di una donna bella. Buongiorno a tutti. È vero che mette un po' d'ansia, perché quando una donna ha questa voce così importante, magari l'uomo dall'altra parte, se ti risponde, tu gli dici ciao amore, dillo con la voce bassa di prima mattina. Ciao amore. E quello magari risponde buongiorno tesoro, capito? No, c'è il rischio che si capovolgano con tutta la mascolinità possibile. Per cui Alessandra, tu il primo vagito è stato uè uè, oppure uè uè normale come tutti i bambini? Uè. Senti, quando hai cominciato? Quando hai cominciato come attrice, hai cominciato come doppia, che è poi la stessa cosa? Sì, sì. Quale mondo ti si è avvicinato per prima? Quello del teatro. Sì. Del senza. Teatro. E ho cominciato facendo degli spettacoli con la Compagnia delle Indie e gestendo poi un teatro, il Teatro Abaco. Con dove la stavi? A Roma, ovviamente? Sì, sì, a Roma, Roma. A Roma. Tu sei nata a Roma? Io sono nata a Roma, sì. Ho non origini toscane. Sì, c'è, però c'è. Prima non c'era su internet, adesso c'è. Perché mi hanno fregato, perché mi hanno messo una data sbagliata. E tu l'hai corretta. E io ci sono caduta. Perché eri più anziana in quella data. Certo, e allora capito. Vabbè. Lo puoi dirlo, quando sei nata, almeno il mese e il giorno puoi dirlo. Il 26 agosto del 1960, non lo devo dire, 5. Va bene. 65. Io sono più giovane di te di 12 anni, per cui ma quando mai? non si dice. Non si dice. Io il 30 agosto sei vergine anche tu. Sì, hai capito che meraviglia. Con sta voce vergine, vabbè. Senti, sì, Cassioli, allora, insomma, sì, hai teatro. Cominciato giovane. No, ho cominciato a fare teatro a 22 anni. E il doppiaggio è arrivato dopo. Mm-hmm. E ti dico che sono venuti Gino La Monica e Vittorio Di Prima a vedermi a teatro e mi hanno portato al doppiaggio. Beh, una donna con una voce già così bella timbrata. No, sul serio? No, è così che succede. Poi Gino La Monica l'abbiamo avuto, sì. Qui Vittorio purtroppo non possiamo più averlo, un altro dei grandi che ci ha salutato, ma parleremo anche di questi personaggi in un'altra trasmissione. Per cui ti hanno portato, hai cominciato subito nel modo giusto? Sì. Subito? Sì, sì, sì, veramente. Con cosa hai cominciato? Il tuo startup, cara, allora, Alessandra Cassioli? Il primo film, The Commitment. Beh, di Alan Parker, di meraviglioso. Alan Parker. Io, Commitments, guardatelo, se non l'avete visto, sono quei consigli che tramite queste onde vi trasmettiamo con tutto il cuore. The Commitments, The grandissimo Commitment. Grande doppiaggio, da chi era diretto? Allora, il provino io l'ho fatto con Federnaut. Federnaut, ne parliamo spessissimo. E poi però il film l'ho fatto con Filippo Ottoni. Meraviglia. Un altro bravissimo meraviglia. Traduttore, adattatore e direttore. E che facevi in Facevo doppiaggio da 3 mesi. Però se è una base, sì, normalmente pazzesco. Non è detto che un bravissimo attore sia anche un bravo doppiatore e viceversa, come un bravo calciatore non è detto che potrà essere un grande allenatore e viceversa, perché c'è una tecnica di base importante, c'è una recitazione più cinematografica, sì, il sì. sync, che soprattutto poi recita col corpo di un altro, lo diciamo sempre, sì, non sì, è facile. È stato veramente un colpo di fortuna. Per cui facevi una delle tre donzelle che cantava. Sì, la Mora, che anche lei aveva una vocetta niente male e quindi... Poi cantavi tu, e no? Alan Parker ha scelto poi, quindi sono stata sì, scelta... Sì, sì, con gli americani decidono gli americani. Pazzesco. Ormai noi... e se ti dico come mi sono trovata, io sono andata addirittura all'anteprima. Cioè ci siamo visti il film in originale prima di cominciare e io ho detto... di Non è doppiabile. No, no, ma sì, ma è una cosa pazzesca. E Filippo Ottoni, meraviglioso, mi ha chiesto prima di cominciare, mi ha detto so che hai cominciato da poco, ma dimmi da quanto. Io gli ho detto 3 mesi e lui è sbiancato. Sì, ma ci sta. Normalmente quando uno comincia da bambino, ha la fortuna di cominciare da bambino, sì, uno impara prima, insomma, i momenti dell'apprendimento di un bambino sono molto più rapidi, infatti quando lavoriamo con i bambini se va in puzza, come si dice a Roma, è che questi buona la prima e tu invece li fatichi come un pazzo. Sì. Però bello, hai cominciato in Serie A subito, hai debuttato con un gol, 1-0. E tra l'altro da lì in poi naturalmente ho conosciuto tutti i più grandi doppiatori che mi hanno chiamato a fare questo, quello. Ma anch'io ti ho conosciuto, non ero uno dei grandi doppiatori però. Ma come no? Ma no, che scherzi. E anch'io cominciavo quando siamo conosciuti. Io ho fatto Gli Amici di Peter con Filippo Ottoni che mi ha chiamato. Film di Kenneth Branagh, mai uscito in DVD. Mai. Pensa un po'. Non si trova. Infatti non film. Ce l'ho. Film bellissimo, sì, ce l'ho in VHS. Bellissimo. Quello sì, mi dispiace non avere niente perché non è facile scaricare i contributi e io qui ringrazio sempre il nostro autore Mauro Meconi e saluto anche Alessia Navarro, il nostro capo progetto e coautrice insieme a Mauro, che non è facile scaricare i contributi perché se non ci sono in internet bisognerebbe scaricare tutto il film, le varie lingue, poi staccare il momento in cui pare. Però lui è molto bravo perché riesce anche a fare il montaggio da vari pezzettini eccetera eccetera, però dico Mitman, se puoi cercarmi nel frattempo magari andiamo nel secondo blocco un pezzo della colonna sonora. Sì, meraviglioso. Perché... Master Sale. Sì, ma Master... ci sono tanti e proprio tu canti, è vero. No, no, tu canti, no. Tu fai Barry White benissimo, no. Mario Biondi poi... la mattina appena ma, sveglia, no, canto, ma c'è un però, vocione. Ho cantato a teatro e ho cantato qualche volta al doppiaggio. Dove hai cantato al doppiaggio? Nei film Disney magari qualcosa? Sì, guarda, mi viene in mente questo perché ho una memoria assurda, però mi viene in mente Lorax, che è un film d'animazione. Lì ho fatto voce e canto. Perché l'ho letto ieri sera e me lo ricordo. Ah sì, assolutamente. Ah, ti sei andata a controllare te stessa sì, la tua biografia. Sì, sì. Sì, e certo. Lo ammetto, mi vergogno mai così. Ma dopo tanto tempo... Senti, io invece voglio sentirmi un contributo tuo mentre lui sta cercando... C'è Valerio che io saluto, è tornato finalmente, da un paio di settimane, perché si è fatto un mesetto e mezzo. C'è avuto un piccolo incidente col motorino. Non si sa chi l'ha preso. Sono stato io, adesso glielo posso dire dopo un anno di combattimenti goliardici fra Roma e Lazio, ma attraversava davanti, io non ho colto l'occasione e Valerio, insomma, no, ferendolo, senza andare, cioè. Poi non mi sono, però non mi sono fermato a soccorso. Sì, ma ho capito che era lui. Se era un'altra persona mi sarei fermato, che bisogna farlo. Però visto che stava bene, rantolava un po' con le gambe, ma no, no, tu non sai che anno che ho passato. Ma siamo arrivati circa intorno alla 45esima puntata, per cui e noi quando andiamo in onda c'è anche il campionato. Per cui dall'altra parte trovare il sorriso sornione di quest'uomo quando la sua squadra vince e la mia perde, che quest'anno è successo spesso. Roma? Sì, forza Roma! Buoni, no, non è una radio regionale, è una radio nazionale. Scusa. E non si parla. Era solo uso e consumo tuo. Vi ringrazio. Beh, bello trovare questo rispetto per il conduttore. Vabbè. Allora, volevo dare forza e tridimensionalità a questa bravissima protagonista. Non lo farò. Eccola. Non lo farò. Invece no, cioè, ascoltiamo un momento di un film, secondo me anche questo clamoroso, che tu hai doppiato, che è Il Sesto Senso. Che non si dice il finale, ma molta gente lo racconta, come era Profondo Rosso l'assassino, la vecchia, insomma, non si dice. No, neanch'io sapevo. Non lo devi poi sapere. Ah, non l'hai saputo mentre non lo doppiavi? Non lo sapevo. Perfetto. Questo un attore non deve sapere, perché altrimenti comincia a interpretarlo nella direzione del cambio scena, sì. Alla fine diventerai cattivo, per cui già lo fai cattivo a metà. Invece così è stato l'ho uno schiaffo. L'ho scoperto alla visione. Credo sia il più bel film di Shyamalan di M. Night Shyamalan. Bellissimo, non ce n'è sì. per nessuno. Gli sì. altri che ha fatto, sì, carino qualcosa, ma Il Sesto Senso con... Tu doppiavi Bruce Willis, no? No, il bambino. Tu eri il bambino. Ecco. Vedo... Quello che vedeva la gente morta. E come si dice con la tua voce? Vedo la gente morta. Vedo la gente morta. Ecco, questo qua era l'esorcista. Poi è stato esorcizzato il bambino. Invece doppiavi lei, no? Lei, la mamma. Com'è l'attrice? Come si chiama? Toni Collette? Toni Collette, che è un'attrice straordinaria, che mi piace sempre tanto doppiare. La segui? La segui sempre come... Spesso, spesso. L'ho doppiata in altre cose, tra l'altro in un film, Little Miss Sunshine. Ah, che è quello che... È vero, che bel film. Per il quale ho vinto il premio. Sì, il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Come... si va, hai capito? Ha alzato la spalletta, peccato che non c'è televisione. Scusa. Mi ha guardato con grande... E Mauro Meconi sta facendo vedere che l'aveva sottolineato nella biografia. Io volevo saltarlo, ma invece ma l'abbiamo detto. Sì, e un altro film bellissimo di Toni Collette, che non è tanto famoso, è Connie e Carla. Che è una... Ci sono dei piccoli grandi film che io consiglio sempre di vedere. È una sorta di remake di A qualcuno piace caldo, dove c'è lei e Nia Vardalos, non mi ricordo come si chiama quell'attrice, che fanno i due di A qualcuno piace caldo, esilarante. Io mi sono divertito un sacco. Vabbè, poi quando capitano queste parti qui uno si esalta. Sì. E allora, hai visto, il primo blocco è volato insieme a te. Non è finita qua, questo è solo l'inizio, perché io lo dico sempre, signori, restate con noi, sarete magari al fresco, ventilato, di fronte al mare con la radio al massimo, non sentite la musica, sentite la musica delle persone che vengono, perché si parla di voce, e che voci. E allora restate con noi, Voice Anatomy, e appena cominciate. Anatomy. Ed eccoci, come promesso, rientrati, signori miei, sempre Voice Anatomy, il vostro Virgilio Pinuccio Insegno vi accompagna attraverso i mondi della voce in tutte le sue declinazioni. Al mio fianco Alessandra Cassioli, lei e il suo strumento straordinario, questa voce molto calda. Stavamo parlando del Sesto Senso, questa attrice che ti ho doppiato spesso, Toni Collette, che ti è valsa anche il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio per Little Miss Sunshine, altro film delizioso, piccolo grande film. Però ascoltiamoci, visto che abbiamo avuto la possibilità di scaricarlo, l'amico Mauro Meconi ci fatica non poco, e noi ascoltiamoci un momento del Sesto Senso, poi vi diciamo come va a finire. Accidenti, speriamo che non si sia fatto male a nessuno. Sei molto silenzioso. Perché non sono venuta alla recita, vero? Insomma, io ho due lavori, amore. Lo sai quanto sono importanti per noi? Avrei dato qualsiasi cosa per esserci. Sono pronta a comunicare con te ora. Comunicare? Dirti i miei segreti. Che cosa c'è? Sai quell'incidente laggiù? Sì. Qualcuno si è fatto male. Davvero? Una signora è morta. Oh mio Dio, ma tu la vedi? Sì. E dov'è? Davanti al mio finestrino. Colmi spaventi. Anche loro a volte mi spaventano. Vedo la gente morta. Che film, ragazzi. Pazzesco. Basta che passava uno in primo piano, sfocato davanti alla telecamera, la cinepresa, e uno si metteva già paura. E quando cominciava a uscirgli il fiato dalla bocca, come se facesse freddo al bambino, cominciavi a tremare. Come che no? Film bello. Pazzesco. Questi sono dei film che cambiano la storia, e questo è uno di quelli veramente difficili. Poi c'è stato fatto un film su questa strada, The Others, con Nicole Kidman, che era il contrario. Sì, per sì, cui è vero, è vero. Poi dopo di questo non ci può essere più nient'altro, perché hai mischiato così. Senti, parlavamo durante la pubblicità dei tuoi trascorsi con le persone con le quali hai lavorato, con cui si sta bene. Parlavamo dell'amico, ogni tanto lo nominiamo, anche lui ci ha salutato un po' troppo presto, che è Tonino Accolla, ma anche lui farà parte di una trasmissione, giustamente per dare onore e gloria a chi ha meritato e che ha cambiato anche qui le regole del gioco, perché Tonino era una lucida follia, proprio un folle. Geniale. Simpatico. E cosa hai fatto con Tonino Accolla? Io l'ho conosciuto Tonino Accolla, Eddie Murphy, Tom Hanks, insomma, tantissimi. Io l'ho conosciuto proprio durante il film di cui parlavamo prima, Gli amici di Peter. E lui mi ha dato delle opportunità straordinarie, mi ha fatto fare dei film bellissimi, con Provini, ma insomma, che sono per esempio Isabella Gianni, mi ha fatto fare La regina Margot, bellissimo film difficilissimo. Mi ha fatto fare Victoria Abril in Kika, quindi film di Almodóvar. E mi ha fatto fare, vediamo, aspetta che... Vabbè, ma comunque lui insomma, era veramente... molto attento, perché riusciva a opportunità dare opportunità. Angela Bassett, con lui ho fatto per la prima volta Angela Bassett, questa attrice di colore. Strano che tu doppi una persona di colore, insomma, tu con questa vocetta così leggera. Non so se hai presente Angela Bassett. Sì, è un po' che non si vede, cioè, ha fatto gli ultimi due film di Attacco al Potere, Olympus, eccetera. Tutti e due, e anche Survivor, un altro film è uscito da poco. Tu hai fatto The Help, quel film? No. Sette nere, pensavo, no, che una serie. No, pensa. No. Lì c'era però Viola Davis, che è un'altra attrice che io doppio spesso, però in quel caso non l'ho doppiata io. Non c'ero, pensa. No, vabbè, chi ha diretto tra tutte. Nel frattempo io facevo un altro film proprio nella sala accanto, con una vocina proprio melodiosa, non una bionda. Credo. Sì, come non ci credo. Vi risponde la segreteria telefonica di Alessandro Cassioli. Salve. Tu hai fratelli, sorelle? Ho una sorella più grande. Fa qualcos'altro? Lei canta con Barry White, cantava con Barry White nella Love Limited Orchestra. No. E ha una voce molto simile alla mia, però un po' più leggera, forse, sì. Vabbè, magari non allenandola, perché la voce, diciamo spesso che molti vengono, a parte, lo sapete, attori, doppiatori, vengono molti tecnici della voce, a parte cantanti, insegnanti, ipnotisti, vocologi, e ogni tanto c'è un tutorial che riguarda la voce. La voce non siamo uno strumento a corde o uno strumento a fiato, se vuoi, ma va allenata, va coccolata. E come uno in palestra cresce il muscolo, la voce cresce. E si modifica con il tempo, con gli stati d'animo. È uno strumento. È uno strumento, come se tu ci avessi un sassofono all'interno che parte dal pube e arriva alla punta dei capelli. E si abbassa e si alza il volume, che è anche il volume dei nostri sentimenti, poi. Non riesci a controllarli, tu che sei un'attrice? Beh, no, insomma, no. Attrice sì, ma nella vita sei tu. No, certo. Dopodiché, tu sei sposata? Io no, non sono sposata, ho un compagno da tanti anni. Lui lo sa? Lo diciamo così perché è presente. E allora ovviamente lo sa. Dall'altra parte del vetro è stato un po' un gioco molto, molto interno. Ma quello Madonna, sì, quanto mi fai ridere. È quello. E ancora non mi sono spogliato. Pensa. Tu pensa, è già sorridi. No, io rido da quando ti ho conosciuto. E non mai credevo veramente, ma rido da allora. Perché mi hanno sempre detto che un uomo deve far ridere, no? Ma voi donne poi siete straordinarie. Perché voi dite, a me un uomo deve farmi ridere, deve essere carino, mi deve amare. Poi trovi l'amore che te fa ridere, che ti ama, che ti tratta bene, e voi lo scansate. Perché ci vuole pure il fisico, però. Ho capito, tu è bello, intelligente, interessante, divertente, che sa ballare, che sa cucinare. Certo, io tanto vorrei conoscerlo. Mauro lo conosco, ma insomma, lo voglio mettere alla prova. Faccio entrare, lo faccio cantare, lo faccio cucinare. No, non sa cucinare. No, sa cucinare, ma non sa ballare. Però è divertente, io lo conosco. Sì, molto ironico. È uno dei tecnici del suono miei preferiti, ce ne sono tanti nel doppiaggio, devo dire che sono tutti ormai straordinari, possono sovrapporsi al direttore di doppiaggio tranquillamente. Assolutamente, cosa che non può fare il nostro Valerio qui, insomma. Esatto. No, e ormai c'è una guerra, è una guerra fredda in atto. Intestina tenue, intestino a crassa, intestina anche colon, lui più colon. Vedi che continui a farmi ridere, però. Ma sì, ma perché sei un po' nervosa e sempre sei emozionata, perché tu fai interviste emozionata. E dici, allora cosa mi domandi? Non bisogna, tu devi essere te stessa, Ale, sei tu. Racconti eccola, la tua storia. Eccola. Questa non è che ti stai vendendo a qualcuno, stai raccontando te stessa, c'è grande curiosità nelle persone, per cui abbiamo ancora un minuto e mezzo insieme per questo blocco, ma ce ne sei altri due. Sì. Te la senti? Tu sei un'imitatrice, dicevi prima che tu canti, sei anche imitatrice, da piccola ma imitavi. Vabbè, da piccola imitavo. Gianni così. Morandi? Gianni Morandi, come fa, Rita Gianni... Pavone. Come fa Rita Pavone? Rita Pavone, devo cantare? Ma no, fischia, che Rita Pavone. Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Sì. Basta? Per te, Voice Anatomy, finisce qui. Era il mio cavallo di battaglia. Non è male, non è male, non era male, che quando... Ma ragazzi, questo è Commitments, la trovo dopo tre quarti. Yeah. Guess you better slow than Mustang down. Una delle tante canzoni soul meravigliose del film, cantate da voi, dal gruppo dei Commitments. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow than Mustang. Io vi consiglio sia il film che la colonna sonora, ma molti di voi sicuramente già ce l'avranno. Per chi non lo sapesse, però se la scaricasse pagando, no? In maniera giusta, onesta, ma ormai insomma si può fare. The Commitments, bellissimo film, complimenti, bellissimo. Così hai cominciato. Yes. Bene, e allora resta qui ancora con me, anche voi signori miei, a tra pochissimo con Voice Anatomy. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un'autoradio digitale, DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamo la nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy, Pino Insegno, al mio fianco Alessandra Cassioli con il suo strumento preferito che è la sua bellissima voce. Parlavamo di altre avventure del doppiaggio che ti piacerebbe ricordare, mi dicevi di... Di Minnie Driver in Will Hunting, Genio Ribelle. Genio Ribelle, è vero, che lei. È il primo film di Ben Affleck e Matt Damon. Sì, hanno cominciato pure loro con un Oscar alla sceneggiatura. Sì. Devo dire, fra dei due, Matt Damon migliore. E io facevo Minnie Driver e rideva moltissimo questa attrice. E il direttore, Francesco Vairano, sì, mi ha detto a un certo punto: se non io ti ho scelta per la risata. Se non fai bene la risata te ne puoi anche andare. Carino, no, ma lui è così, è venuto anche ospite qua, è mio direttore del Signore degli Anelli e quant'altro, e lui è sempre, è l'ultimo film che dirigerò questa volta con te. Certo, com'era questa risata? Beh, era lei, aveva anche una bocca molto grande, aveva questa risata grassa, poi nel film racconta pure una barzelletta e ride. Ti ricordi la barzelletta com'era? Era tremenda. Non me la ricordo. Questa radio c'è Cruciani che ha sdoganato tutti noi. No, me la ricordo tutta un po' lunga di lui e lei che sono anziani. Non la voglio raccontare perché è un pochino... Ma un po' forte, no, non me la ricordo tutta. No, però. Non è vero, te la ricordi, ma la vuol dire perché c'è una parolaccia. Non allora... me la ricordo, ridevo tanto. Ecco. La barzelletta più breve la conosci? Non sei una raccontatrice di barzellette. No, non sono. Tra l'altro neanche rido quando le raccontano gli altri. Non è bene. Non rido, fanno ridere. Lei e lui al telefono. Lei ciao, lui ciao, lei ciao, lui ciao, lei sono incinta, lui ciao. Hai riso! Una coppia di amici, guardando una coppia di innamorati, uno fa all'altro. Secondo te quello È felice? No, felice è più alto. Ride! Ridi! Vabbè, ma non vale, te l'ho detto, allora, tu mi fai ridere. Ho capito, ma... No, non vale. Quando non sono nato, mai. Mia madre ha guardato prima il sedere, poi la faccia, ha detto che bello, sono gemelli, hai visto? Questo sono io, vicende di vita vissuta. Va bene, comunque... Non basta, perché se no non ridi sì, più. Ma no, non rido più, ma tu non fai testo, perché te l'ho detto, tu mi fai ridere. Capito, quindi... ma non poteva nascere mai niente fra di noi, perché se è il momento più importante, l'altra volta abbiamo avuto... Rosanna Casale che racconta che lei non può fare cose intime con la musica perché altrimenti si concentra sulla musica, se uno sbaglia tonalità o l'orchestrazione non gli piace lei si distrae. Ah sì? Tu invece ridi. Io rido. Ho capito, sì, ma... Sì. No, ma ti non piace è vero, ridere? Non moltissimo, moltissimo. Perché infatti... dici che non piace ridere? No, no, mi piace, tra l'altro io nella risata do tutta me stessa al doppiaggio, che non è una cosa poi così solita, perché di solito le risate, i versi sono... non è facile, sono i momenti più difficili. Ma io lì mi lascio proprio andare, la risata mi viene, poi se è di cuore, più è di pancia e più... Però devi poi seguire i suoi ritmi. Certo, assolutamente, però il Mini Driver in questo film me lo permetteva e quindi ho riso come una pazza. Sì, eh? Sì. Questo è bello. Ma sei anche una direttrice, però. Tu mi hai diretto ultimamente. Oddio. Io non parlo, cerco di non parlare di me, insomma, perché qualcuno mi strilla anche i nostri radioascoltatori, cioè, però io dice, ma che stai ma a dire? Ma che stai a... Vabbè, perdonami, io sono il presentatore, faccio anche questo di mestiere, un po' devo veicolare l'intervista, altrimenti diventa a domanda, risponde, risposta, altra domanda, si risponde, diventa intervista classica, la gente non ne frega niente. Ecco, vabbè, ma arriviamo, sta diventando una trasmissione sulle righe, vabbè, ma tu ti rendi conto che rapporto che c'ho? Beh, cioè, mi fai i gesti, io dico, questa a me mi salva una frase di Groucho Marx in questi casi, che dice, vabbè, basta parlare di me, parlami un po' di te, Alessandra, che ne pensi di me? Capito? Questa che può sì. essere anche ottima. Vabbè, sì, chiacchiero, è radio, cioè che devo fare? Cioè, metto a suo agio le persone che magari vicino a me sono leggermente in difficoltà oppure non hanno quel ritmo radiofonico, allora cerco di bypassarlo mettendo un po' di ritmo. Poi perdonami. Hai anche tante cose da raccontare, eh? Sì, tutte bugie, sì. Però... Tutte bugie, ma non lo so adesso questo, però... Dove mi hai diretto? Qual è questa serie che abbiamo fatto? The Player, Weasley Snipes. Sì, sì. Che sì. nome Weasley Snipes? Che poi appena uscito di galera ho cominciato a doppiarlo io, non so perché. Perché? Non lo so. Chi lo sa? Ho fatto comunque, i mercenari tre e c'era Weasley Snipes appena uscito da galera, perché in America ti mettono in galera se paghi le tasse. Hai capito? Hai capito? C'è questa piccola differenza. Eh sì, loro ci mettono un mese per date 10 anni, noi ci mettiamo 10 anni per date un mese, vabbè. E poi in questa serie The Player, The che Player, non so sì. dove è andata in onda, però se era su Sky, Paramount Netflix. Channel. È vero che c'è il nuovo canale. Sì. Paramount Channel. Ti piace fare più la direttrice o la doppiatrice? No, la doppiatrice. Almeno, sai, ho appena cominciato a fare direzione, forse ho anche già finito, chi lo sa. Per te, dopo che hai diretto me, hanno detto finita. E, è molto interessante, perché a me della direzione poi piace il lavoro di ricerca che si fa anche dietro, per cui è molto interessante la direzione. E poi dirigere te è stato... Dai, no, mi fa così, poi non dico, parli sempre di te. Senti, invece... Successo visto... garantito. Dai, sì. C'è una desinenza vocale, successo, sì. Esatto, garantito. Cioè, ma no, va. Vabbè, vabbè, dai. Vabbè. Senti, invece dimmi. Abbiamo trovato, pensa, il nostro tecnico del suono straordinario, che ha un altro pezzo di The Commitments, visto che, insomma, siamo in piena estate. È giusto pure dare spazio alla musica. Allora divento un vero DJ. Ehi, chain. Vai! leitmotiv di questa puntata è la bellissima colonna sonora di Commitments, ma non così a casa, a parte che sarebbe bello metterla anche così, ma perché la nostra Alessandra Cassioli ha cominciato doppiando questo straordinario film. Eri una di queste che cantava Chain Chain Chain, poi. Sì. La Mora. Poi c'è la biondina piccoletta, vabbè, cioè, proprio un gruppo, un film bellissimo. Corale, stupendo. Da non perdere. Che stai combinando adesso? Che sto combinando? Adesso sei... Ecco, non mi fare domande. Sei in radio. Ecco, infatti sto combinando questo, non mi chiedere altro. Teatro? Perché... No? Teatro no, no. Perché poi un doppiatore si siede nelle sale e non vuole più fare teatro. Perché... Vabbè. No, non è così, non è così. E, ho fatto una, però stiamo parlando di 3 anni fa, una cosa a teatro con alcuni colleghi doppiatori, tra l'altro. E, io lì cantavo. Ah, è vero che tu canti. Abbiamo ascoltato prima Rita Pavone. Me la rifai Rita Pavone? No, perché no, Rita Pavone. Lei non è stata apprezzata. Ti faccio la Vanoni? No, una per volta. Dai. Prima facciamo tipo tale quale show che io ho avuto. La fortuna o la sfortuna per chi l'ha non visto. Ho perso una puntata. Certo, ero uguale a me stesso sempre, comunque. Cioè, 7 ore di trucco passo mio a me stesso. Vabbè. È vero. E non è colpa dei professionisti straordinari che sono dei truccatori. Sì, è la mia faccia, da me la cotogna che sopravvive su tutto. Adesso non dico questo, però un po' è vero. No, no, un po' è tanto vero. Un po' vero, sì. Era Aldo Fabrizi che imitava Pinonsegno, era Johnny Dorelli che imitava Pinonsegno. Louis Armstrong sembravo Costanzo... che è rimasto sotto una lampada per 10 ore. Beh, magari faccio pure bene qualcosa, ma si perdeva nei meandri del nulla eterno perché assomigliavo sempre a me stesso. Sì, e quindi purtroppo... sì, che rideva. Lippi si metteva sotto al tavolo e la Goggi mi dava 5. No, era importante. No, ma io ormai anche puntavo su quello. Certo. Ma il trucco erano per loro, sono straordinari. È la mia faccia che non cambia. Se io nascevo Robert De Niro, me morivo di fame. Perché sono sempre uguale a me stesso. No, cerco di variare con la voce, con le cose, eccetera. Ma gli occhi non cambiano mai. Quelle sono caratteristiche fisiche che però rendono una persona molto particolare. Diciamo molto particolare. Rita Pavone com'è? Ma davvero la vuoi sì, risentire? Sì, ti prego. La faccio più piano. Sì. Non essere geloso, sei con gli altri ballo il twist. Okay. Non essere. Il voto è perfetto. Cos'è? Questo no, dai voti, Mauro Meconi, dall'altra parte. E questa era il quell'altra che era il tuo cavallo di battaglia. No, gioventù, non lo so. No, non è e dai. Ho sbagliato tante volte. Anche adesso a cantare, sta buono. Lo so già. Sei intonata, però. Però questa sei più te, è più elegante. No, è lei. Porca miseria, come? Si arrabbia. Certo, scusa, perché... rifalla. No, aspetta, cerca ce n'è un'altra. Cerca un attimo canzone e mettiamola in parallelo. No, lo sai quale? La voglia e la pazzia, quella lì. A questo punto stiamo tanto bene io e te che non ha senso... No, ti giuro, Orietta Berti è sempre Orietta Berti. Come la fai, la fai. No. Brava. Ma non è Orietta Berti. Ah, è la Vanoni. È la Vanoni questa. Scusa, per un attimo. Ed è perché... Ecco te, ha dovuto finire. Niente, cioè, non me la fai cantare, mi dici canta. No, ma è bella, cioè intonata. A parte che un attore quando... cioè, vive di intenzioni. Se sei intonata, devi essere intonata anche nel canto. Uno può essere diseducato nel canto. Molta gente dice, sono stonata. Non è vero. Uno è soltanto diseducato. Io cercheremo magari da settembre di ricominciare le trasmissioni, ve l'ho detto, con dei tutorial dove... riusciremo ad organizzare a casa come dei corsi di ginnastica per chi non ha tempo di andare in palestra, dei corsi per la voce, di dizione, di impostazione Bello. Della voce, esercizi che uno può fare anche mentre sta cucinando. Può essere una cosa molto divertente, molto bella. Io mi auguro che entri in tutte le scuole, lo urlo di puntata in puntata. Riavremo il nostro carissimo ministro, la ministra Stefania Giannini, che è molto attenta a tutto ciò che riguarda l'educazione vocale, perché sai, è importante che nelle nostre scuole si parli italiano rispettando i dialetti, però italiano, perché insomma è la tua lingua con la quale ti dovrai interfacciare nel futuro, se sarai un medico, un onorevole, un architetto, insomma un avvocato, è quella, e soprattutto anche l'impostazione della voce, perché renderà tutto migliore. Sì. Avere un professore davanti a te che ti parla con la voce giusta, e ripeto, non la bella voce, questo lo urlo dall'inizio delle nostre puntate, ma la voce giusta, con le intenzioni giuste, che ti fa innamorare di un progetto, di qualcosa. Infatti i bravi venditori sanno come vendere proprio perché utilizzano la voce giusta e il modo giusto. Abbiamo fatto anche tanti incontri con Frank Merenda, che è un altro grande guru della vendita, del venditore vincente, insomma, di percorsi sono rimasto stupito, ho conosciuto persone qui che voi umani neanche potete immaginare. Sì? Sì, vocologi, Leonora con la voce estrema, dei rocker, cioè, beh, bellissimo, veramente dei mondi che si sono sovrastrutturati. Bene, mi fa dei cenni che sta finendo anche questo blocco per poi passare l'ultimo blocco insieme. E allora, restate ancora con noi, per me lo sapete, anche se mi strillate in internet, Pino fa parlare gli ospiti. Lo faccio. Ciao. A tra pochissimo con Alessandra Cassioli e Voice Anatomy. Franco Schipani. Alessandra Fiori. Buongiorno. Tintarella di luna. Tintarella con un latte. Alessandra Fiori e Franco Schipani ci tengono compagnia per tutto il mese di luglio con Mix 24 Estate, raccontandoci gli anni 60 e 70 attraverso la musica e la storia. Tutte le mattine alle 9.30 su Radio 24. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Alessandra Cassioli per l'ultimo momento insieme, questi ultimi 10 minuti insieme. Stavamo parlando prima anche dei telefilm, le fiction eccetera, i sceneggiati che vanno adesso, e ho pronunciato malissimo un protagonista che invece mi ha ripreso anche Valerio, ho detto, è doppiato Xena, e tutti qua hanno detto sei un pazzo. Ma che Xena. Xena, perdonatemi. Xena, principessa guerriera. La principessa Lucy Lawless, l'attrice. Lawless. Lo sanno gli ascoltatori che io col francese non ci... Col francese. È una battuta. Oltre l'italiano anche l'inglese mi sovrappone la voce il mio amico Valerio. Amico. Vabbè. E lei l'hai seguita sempre in tutte le sue sì, guerre? Quasi sempre. Sì, per quanto riguarda Xena, sì. E tu devi sapere che io posso dire di aver fatto questo, quell'altro film, quell'attrice, non importa niente a nessuno. La gente si ama, cioè, queste, anche le figure. Ieri sera mi è successo, sei una doppiatrice, mi dici qualche che film. Sesto senso. Poi un altro ha detto, ma lei è Xena? No. E allora lì si è fermato. Xena, sì, Xena. Si ferma il mondo. Veramente era seguitissima, era una serie pazzesca. Io quando la facevo non avevo, ero anche un po' sopraffatta dai fan. Non senti il polso di quello che sta facendo. No, certo. Ricevevo telefonate, lettere, non ti posso dire. Guerriera, ma lei era particolare anche in anticipo sui tempi come guerriera. No, tutte voci, come, tutte voci. Come lei di Oscar, insomma, tranquilla. No, lei aveva questa sua amica Olimpia. Vabbè. E però vabbè. No. Però perché? Beh, insomma, in anticipo sui tempi. Sì, aveva, era anche stata fidanzata con Marte, però Xena. Sì, ma non era una storia che ha portato a niente, mi sa. No, è finita lì. È finita lì e invece con Marte. Loro sono rimaste. Tu lo sai che io sono andata recentemente, perché allora non avrei mai potuto. Sono andata a una convention e ho visto Xena. Cioè? Nel senso che mentre parlavo e mi intervistavano, a un certo punto dal fondo della sala è arrivata lei, vestita come Xena, capelli come Xena. Lucy... No, no. Non era l'attrice, ma è una australiana, credo. Sì. Adesso, no, forse era tedesca. Sono i cosplay, quelli che si vestono... Vestita come lei, cioè truccata. Lei. No, era lei. Era stessi lei. Capelli, ma una roba di 2 metri, tra l'altro, che avanzava verso di me. E io mi sono anche un po' spaventata. Questa mi gonfia. E a un certo punto lei mi ha chiesto, siccome si era portata Hercules, sì, te lo giuro, mi ha chiesto di doppiarla in lì. E io ho detto di sì, l'ho fatto, perché avevo paura di lei. Italiana. Italiana era lei oppure no, italiana? No, lei era tedesca. Tedesca, cioè, alta lei, 2 metri. Io dovevo doppiarla lì per lì e l'ho fatto, ho fatto questa cosa. Hai fatto bene, però hai visto come valorizzi una persona. No, non ho visto una bella voce così, dico, vabbè. Capista, serata, dato... Senti, sentiamoci invece un altro momento di un'altra attrice che tu hai doppiato e doppi, Laura Linney, in un film Congo, se non sbaglio, vero? Ascoltiamoci la nostra amica Alessandra Cassioli anche in quest'altra interpretazione. Vai. Purtroppo brutte notizie, Charles e gli altri sono stati uccisi. Ha trovato il diamante? L'ha trovato? Sì, le avevo promesso una cosa, ricorda? Che se mi fossi accorta d'essere stata mandata qua giù per uno sporco diamante invece che per Charles, gliel'avrei fatta pagare cara. Sono molto addolorato. Ora la cosa che... Lo so. Le serve una nuova mucca da latte. Giusto. Ma che succederebbe se programmassi il laser con il numero del satellite e premessi il grilletto? Il chip del trasmettitore collegato col satellite, giusto? Questo è per te, Charles. No! Eccolo, questa era una registrazione particolare, hai sì, sempre tu. Sembra beh, sì, un non film è antico. Comunque sì. Non è piccolo. Senti, noi lasciamo, no. Noi facciamo fare ai nostri ospiti, attori, doppiatori, sempre una lettura particolare senza avvertirli. Tu sei della Vergine, sono della Vergine, Mauro Meconi è della Vergine. Leggici la Vergine. Però leggicela in modo, cambialo insomma, come... Prima dura come questa attrice, poi magari più mamma come il Sesto Senso, poi magari come Xina. Non so, divertiti. Non lo so, vediamo. Sì, vai, come fai? Come si fa? Dai, neanche te l'ho fatto leggere, però dai. Va bene. Con la musichetta che Valerio sceglierà. Eccola qua. Vai. Vergine. Dio. Il trigono Mercurio-Marte vi fa buon gioco. Infatti, trovandovi nel mezzo, vi godete il raggio positivo di entrambi. Amicizia, acume, spirito di iniziativa, dunque movimentano anche la giornata. Arrabbiati. Forte la voglia di velocità, che però non deve azionare l'autovelox, altrimenti piovono le molte. Amichevole anche Plutone, indebolito però dalla quadratura della Luna, che vi fa spendere più del dovuto. Amore, ecco, Eros. Sì, ti voglio. Dopo così. Un bisticcio reputato carino, anzi necessario, fare pace con un regalo. Ma che salasso! Il partner apprezza le vostre buone intenzioni, ma subito vi ricorda che non siete in condizioni di strafare. E così vi sentite di nuovo bastonati dalla sua superiorità. Quanto è pesante stare insieme a una persona praticamente perfetta. Lavoro e denaro. È il settore privilegiato della vostra vita e non fa eccezione nemmeno oggi. Già al mattino presto siete in pista con nuove iniziative e faccende da sbrigare a pieno ritmo. Anche in affari non perdete un secondo. Tutto alla velocità della luce. Bella forza. Le vacanze ormai sono dietro l'angolo. Bellissimo. Beh, perché... Qui si capisce l'arte proprio. Bello, ma... bello, mai letto, mai fatto e l'hai interpretato. Ma bellissimo, sì. Un esercizio di stile vocale bellissimo. Grazie. Brava, brava, grazie. Brava, non avevo dubbi. Sei stata straordinaria. Senza imitazioni. Pensa a farla così. Yeah. Ah, l'hai trovata, la sua imitazione. Ah, sentiamo se è uguale a te. Cantala insieme a lei, dai. A questo punto stiamo tanto bene io e te. Solo lei, che non ha solo senso lei, lasciala dire fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello. Vai via con lei, continua tu. Vita. Per un momento che non scappi fra le dita. Basta. E devi ancora tutto quello che non è ci sta, ci sta. Non è che io me l'aspettavo che fosse stato così rapido, Valerio. No, invece tempo che verrà. Basta e poi continua. A questo punto ecco, siamo te. Vai, vai. Incertezza. Hai problemi all'amarezza. Sento il carnevale entrare in me. E non solo il carnevale, è impazzita. Sento crescere la voglia, la pazzia. Un'amica deduzia. L'innocenza e l'allegria di morir d'amore insieme a te. Chiamate il 118 per Florenza ferma più scusa. No, te è partita proprio. È partita la brocca, mi piace tanto questa canzone. No, non si è capito. Vabbè, non si era capito. Aveva fatto con Vinicius de Moraes, insomma, Tocchigno, bellissima. Tutta un gente album del, di Roma Sud, no? Vabbè, so di Roma Sud, Tocchigno, cioè, no? Jobin. Jobin. Jobin, Jobin. No, no, no, no, no, no, no. Guarda, mi faccio dire tutto da te. No, no, vabbè, anche i nostri ascoltatori l'accettano fino a un certo punto, però. Hai visto com'è volata quest'ora insieme? Sì, E tu avevi paura, dico chissà che cosa. Perché domani sono timida. Ma è uno... Credo che quando ha molte frecce nel proprio arco, tu poi sei stata Xina. Ma che te frega? Ma che, frega? Sei stata Xina. È vero. Non c'è più Xina adesso. Beh, lei c'ha un po' di prostatite. No, quanti anni c'ha? No, lei no, no, è bellissima, è rimasta bellissima, sì, perché l'ho fatta anche in Spartacus. E ti garantisco che c'ha un fisico niente male. E so che lo rifaranno. Ritornerà Xena, me l'hanno detto. Non so se ci saranno. Praticamente ritorna Raga Xena. E io su questa cosa finirei. Sta chiudendo la radio. Se ne stanno andando tutti. Roberto Napolitano ha chiamato, che è il direttore della radio, e Barisoni, e hanno detto: per te, Pino Insegno, Radio 24 finisce qui. Però lei che torna, raga, sì, mi piace, mi fa ridere. Ti fa ridere? No, mi fa ridere. Dai, devo dire la verità. Ogni tanto mi faccio ridere. E senti, c'è un'attrice straniera che ti piacerebbe ancora interpretare? Non l'hai fatta, magari una che ti è piaciuta guardare? Mannaggia, l'hai voluta farla io. No, direi di no. Mi piacerebbe rifare alcune attrici che magari ho fatto solo una volta. Ashley Judd, Annette Bening. Insomma. Ma succederà. Come curi la tua voce, Ale? La curo facendo dei controlli regolari, per esempio dall'otorino, mm-hmm. e quindi tenendo sempre sotto controllo le mie corde vocali. Bisogna coccolarle. E cose naturali, poi insomma olio o spray naturali. Erisimo, malva e quant'altro. Sì, cose così. Senti, mentre ci salutiamo, perché manca un minuto, poi abbiamo un'altra ospite straordinaria. Pensate, ci è venuta a trovare Sandra Milo. L'abbiamo incastrata di domenica. L'Highlander Sandra Milo, che è già di là e lo sento dalla voce. Questa è Voice Anatomy ed è una voce inconfondibile. Però mettiamo un altro pezzo di The Commitments, e vi ricordo di guardare questo film se non l'avete visto, di ascoltare la sua colonna sonora e anche la voce della nostra Alessandra Cassioli. Per cui ti saluto con le note di The Commitments. Ciao Ale, saluta anche tu me e i nostri radioascoltatori. Però ciao Pino, ciao a tutti e grazie di questa piacevole mattinata. At the dark end of the street, that is where we always be, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide alone. At the dark end of the street, you and me. I know time is gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh! Dark end of the street, you and me. They're gonna find us. They're gonna find us. They're gonna find us, love, someday. You and me at the dark end of the street. Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, Voice Anatomy, Pino Insegno, dopo una bellissima intervista attraverso la voce di Alessandra Cassioli, una voce molto bella, molto timbrata. Passiamo a un altro tipo di vocalità. Alla mia sinistra c'è un'icona del cinema italiano, che io ringrazio di essersi sacrificata di domenica con questa situazione, ma lei è una grande amica, a parte mia, anche di mio fratello, che mi ha raggiunto ed è qui alla mia destra, Claudio Insegno. Quando dicevi icona pensavo che dicessi a me. No, Claudio Insegno ha solo un difetto, che a me come fratello, perché lui è quello bravo della famiglia, ma la conosceremo strada facendo. Vedete, l'ho chiamata alla 45esima puntata, per cui non è nepotismo. No, anzi. Dicono tutti che c'ho la voce uguale alla tua, poi. No, no, no, sei anche brutto, oltretutto. Però la radio... In radio non si vede. Sì, ma se cliccano, capisco. No, non ti preoccupare. Fai vedere l'icona, intanto, che è meglio. Eccola. Piacere. Cioè, questa voce è inconfondibile. Sì, è vero. Mi riconosco anche al supermercato. Le massaie si fermano e dico: è Sandra Milo. Così sono io, ma io l'ho riconosciuta dalla voce, sembra fantastico. Arriva prima la voce, anche perché non hai anche un bellissimo corpo, insomma. No, il fisico ce l'ho. No, dico, voglio dire, sono molto contenta di essere qua, a parte il piacere di stare con te, con Claudio, perché mi fa piacere pensare che i nostri ascoltatori magari sono al mare. Sono al mare, sicuro. Magari dentro l'acqua con le cuffie, ma come dentro l'acqua con le cuffie? Sì. Non con le cuffie queste qua. Oddio, sembrava Ciro. Con le cuffie della radio, che sentono, perché sennò come fanno a sentirsi se sono nell'acqua? Perché adesso c'è l'iPhone che passa sotto l'acqua. Le cuffiette come si chiamano? Quelle cuffiette si chiamano. Però magari se stanno facendo il bagno. Il bagno, per favore, fatelo anche un po' per noi. Esatto. Ci farebbe tanto piacere. Com'è l'acqua? Com'è? Sta parlando con il suo amico immaginario, naturalmente, Sandra. Io conosco molto bene Sandra, perché avendola un po' diretta ogni tanto posso dire che lei è così veramente, ma non è così veramente nel senso che è scema, ma è la donna più strepitosa e più intelligente, più bella e più ironica, Claudio. Ironica del mondo, del mondo. Vabbè, ragazzi, guarda, che devo fare? Allora, Sandra Milo, allora, è un nome d'arte. La scena pagata per 2 anni. No, ci lavori da così tanto tempo con Claudio. Sandra Milo è un nome d'arte, poi io non lo sapevo. Sì, è il nome di Salvatrice Elena Greco, tu esatto, ti chiami. Esatto. Salvatrice. Sei nata a Tunisi. La disgrazia di un nome. Sì, No, perché tu sai che i nomi influenzano poi il destino delle persone. Sembra, certo. No, non dico una sciocchezza, è sempre stato così, insomma. Voglio dire, uno che si chiama Salvatrice, è chiaro che ha il destino di salvare sempre qualcuno, certo. E ti assicuro che è molto noioso salvare la gente. Tu facevi l'assistente bagnante, a proposito, per questo. No, salvataggi di ogni tipo, di vita, insomma. Proprio, sì, di quotidianità. Ecco, bravo, sì. Io mi chiamo Giuseppe, devo essere padre di qualcuno di molto importante, visto che Giuseppe ha dato magari la luce. Magari tuo figlio diventerà una celebrità mondiale, e camminerà sull'acqua. Camminerà sull'acqua, certo. E Giuseppe inventerà il modo di farci volare senza gli aerei. Sì, è fantastico. Potrebbe essere, no? Sì, essere visionari come e Steve Sandra Jobs. E Sandra starà ancora lì, te lo dico io. Ma Sandra, posso dire quando sei nata? Sì, sì. 1933. Vabbè, mi sembrerà una cosa assurda, no? Perché voglio dire, essendo nel 2016, che il 1933? Ma quando è? Quando è successo? È successo. Beh, è successo. Io c'ero, 67 c'ero. Più 16, 76. Cioè, tu hai 83 anni? 83 anni, sì. Ma la cosa straordinaria della mia vita, sai qual è? Che stai ancora qui? No! No! Ci sono, vabbè, ci sono tanti. Io mi permetto, chiedo scusa, Sandra. Mi permetto di giocare così, perché Sandra è una sorella maggiore della nostra. Io la chiamo anche mamma, quindi figurati. Se non giochiamo, se non ridiamo. Sì, voglio dire, se prendiamo troppo la vita sul serio, beh, vabbè. Che sfortuna proprio. No, ti volevo dire che la cosa mia straordinaria, veramente, è che io lavoro. Dunque, ho cominciato a lavorare che avevo 12 anni. Allora vedi, si fa quindi le domande e le sono risposte. 71 anni. Se credo che non c'è nessuno che festeggia 70 anni di lavoro. Che nozze sono con il lavoro? Sono nozze d'amiante? Che so? De platino? Di più del platino? No, 50 anni, vabbè, sì. Sono nozze d'oro. 70, l'hai mai sentito 70? No. Oh, vedi. Io. Senti, tu sei libera le prossime domeniche, le prossime 86 domeniche del prossimo anno, da settembre in poi. Ti voglio qui vicino a me per sempre, perché per allegria. Ma guarda, vedi, le persone sono maieutiche in queste. Se tu metti allegria, la gente è allegra anche se è triste. Sì. E in questo sei il salvatrice, davvero. Ecco, lo vedi? Lo vedi che lo ha un senso. Ma come mai Tunisi? Che papà e mamma erano laggiù? O papà dunque, solo? Mio padre era nato a Tunisi. Figlio di un emigrante, un siciliano che da Ragusa era partito, mio nonno, no? Mm-hmm. Era andato là, si era sposato e poi era nato mio padre. Mia madre invece era nata a Marsiglia, da mio nonno che era scappato perché era un uomo bellissimo, seduceva le mogli degli amici, quindi a un certo punto era dovuto scappare perché l'ammazzavano. Era andata a Marsiglia. Mia nonna, che era una contadina, era andata a Marsiglia a fare la cameriera, proprio in casa di mio nonno. Mio nonno era molto brutta, veramente una delle donne più brutte. No, questa nonna, è nonna, no? Nonna, sì. Guarda, io te l'ho sempre detto, non è che lo dico ora perché sei morta, vero? Te l'ho sempre detto che era brutta, poi tu lo sapevi. Sì, adesso parla con la nonna. Sì, sì, lo so. No, è a proposito del sesto senso, che proprio da Alessandra Cassoli. Lei parla con le persone, sì, con le persone morte, lei ce l'ha. Sì, no, io ci parlo davvero, sì. Ma parliamo molto, lei, la nonna poi mia, era meravigliosa. Come si chiamava nonna? Si chiamava Alberta. La nonna Alberta, sì. Beh, veramente. Insomma, era brutta e conobbe nonno che invece era un tomber de fama. No, nonno no, perché poi è stata ammazzata a Marsiglia. Qualcuno l'ha raggiunta e l'ha assassinato. Mio nonno Dante. Oh. Dante Paglianti, che partiva da Pisa, diciamo, da quelle parti. E così io sono metà siciliana e metà toscana, che sono le due regioni più cattive d'Italia. Ma dai. Eh sì, i toscani pessimi. Infatti chi fu la parte che scrisse maledetti toscani, no? Ha perché detto, proprio qui sono cattivi. Tu pensa ai toscani che stanno ascoltando, no? Stanno felicissimi. Stanno contenti. Al mare hanno buttato la cuffia, hanno buttato. Ma perché non lo sanno? Oh, ma che siete me? E i siciliani, sono quelli che hanno inventato la mafia intanto. Sì, ma no, ma beh, no. Che c'entra pure Leonardo ha inventato delle cose, ma insomma, no, però la Sicilia. Leonardo era Leonardo. Sì, ma non era neanche siciliano, neanche toscano. Però la Sicilia no, è una terra straordinaria, dai. No, poi sono persone di un'intelligenza straordinaria. Ma sono anche buoni, secondo me. Meravigliosi. Buoni? Sì. Non lo so. Io sono buona, ma credo per ragioni estranee alle mie origini. Insomma, ci siamo giocati due regioni, ce ne abbiamo altre 19. No, però lei deve dire la verità, perché tanto non importa niente di quello che succede intorno. No, giusto Sandra? Ma è giusto la verità, ma non lo dico con cattiveria, è così, capito? Cioè, è un dogma proprio, per te è così. Quali sono le regioni più dolci per te? Quali sono gli abitanti, la regione che preferisci di questa nazione? No, la Sicilia, sono pazza, innamorata pazza della Sicilia, mi piacciono i siciliani, parlare con loro, ti dicono una cosa ma in realtà ne intendono un'altra. Attenzione. E tu devi capire quello che loro intendono al di là delle parole, è meraviglioso. Io sono solo il conduttore qui in questo momento, sono tranquillamente e Sandra. Ma sì, sì. No, io siciliani... ci vado sempre in Sicilia. Adesso ti sta più attenta, cioè, comunque io ti dico Non te vado quando ordini in aereo. Un vai con qualcosa, prendi magari un arancino. Un arancino, attenta. Quelli sempre, sempre. Sì, sta anche perché adesso. Sandra piace anche tanto mangiare. Già sul traghetto riprendo. Sta attenta che magari a metà traghetto. Ma dice, ma non c'era Sandra Milo. Ha fatto fa la fine del Titanic. No, no, no, per carità, che nel mare nostro già di cadaveri ce ne sono tanti. Ma infatti non I volevo... pesci sono ben nutriti. Sì, non no, non volevo aprire questo link. Non volevo aprire questo link, dicevo ironicamente. Lei sulla prua di questa del traghetto con un uomo lo che fa. Si avvicina da dietro dice ti fidi di me? Lei dice sì e lui ha buttato sotto perché è siciliano di origine toscane magari. Toscana, e l'Umbria beh, che ne so, che mi dici dell'Umbria? Che ne so. Sì sì, l'Umbria mi piace mi molto. Piace. Com'è il cuore verde? No, ma sai chi mi piace più di tutti? Sì. I milanesi. I milanesi piacciono più. Adesso, il contrario di tutto. Sì, certe volte no. Magari uno adora più il sud dal calore della gente. Per esempio i napoletani che sono fantastici, sì, così, però hanno un fondo estremamente malinconico. Certo. Tu vai a casa a Milano, vai a Milano e vedi dei palazzi belli, severi, eleganti. La gente forti, ironica. No? Tu dici, oddio, mamma mia, quanto sono tosti, no? Beh. Poi si apre un portone e ti appare un cortile... siciliano. No, no, un cortile fiorito meraviglioso. Sì. E questo ti accontenta? No, sì, no. Allora dici, ma come mai è così? Questo rispecchia, voglio dire, l'animo la città rispecchia chi l'ha fatta, no? Esatto. Certo. Quindi i milanesi sono così apparentemente ostici, così. Però poi se entri e fai amicizia con loro ti accorgi che dentro di loro c'è un giardino. Tu sai che molto della Lombardia, insomma, è stata anche frutto di immigrazione a parte dei pugliesi, certo, siciliani, certo, calabresi, certo, a parte certo. I milanesi doc. Ovviamente. Va bene, nel primo blocco ci siamo giocati almeno due regioni. Tutte ne le regioni. Recuperato vabbè, un'altra. Però Sandra ha lavorato con i più grandi attori di tutte le regioni, da Totò. Esatto, però adesso dire. Vi devo salutare un attimo che andiamo in pubblicità e torniamo subito sperando che non arrivi nessuno siciliano o toscano alle nostre porte. A tra poco con Sandra Milo e Claudio Insegno e anch'io. Voi sanatomi, a tra pochissimo. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci, anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale, battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Sanatomi. Siamo ancora qui nonostante le lucubrazioni e questo percorso geografico di Sandra Milo, siamo ancora qui, ma è giusto, diciamo durante la pubblicità anche con Claudio, insomma uno deve dire quello che pensa, poi può essere accettato o non accettato, però è giusto, è il tuo pensiero, ho avuto questa sì, esperienza di vita. Cattiveria, e che vita? No, no, per esperienza. I tuoi uomini ma a questo punto. Ma poi come dicevi giustamente tu prima, magari poco gentilmente, però mi hai detto, alla tua età te puoi permettere di quello che ti pare. È così, no? Dai 50 anni che in su. Verità, io devo star zitto. Devo star zitto durante la pubblicità che lei lo ridice. Lei lo ridice. Ah, io sì. E poi infatti starò zitto. Perché alla sua età può dire quello che gli fa. Parliamo un po' con te, Claudio Insegno. Tu io ho lavorato con Sandra Milo. No, lascia Sandra un attimo. Claudio ha cominciato, lo so perfettamente perché fa parte della mia famiglia, aveva 11 anni quando ti abbiamo messo in scena. No, non esagerà sempre, 13. Lui esagera sempre, lui dice sono 60 anni che faccio questo mestiere. Beh, tu c'hai 50 anni. Ma non è possibile, perché io abbiamo fatto insieme, quindi non so 60 anni che fai questo mestiere. Ci serviva un piccolo ruolo nel primo spettacolo, Sandra, dell'Allegra Brigata, sempre con Roberto Ciuffoli, Francesca Reghetti, ma c'era Massimo Popolizio. Al teatro Clemson. Al Clemson, che si è diventato il Greenwich, un cinema, che è stato il nostro start-up, il nostro mestiere, dove abbiamo capito che forse stavamo raccontando qualcosa di nuovo, comunque di rielaborato. Beh, che all'epoca ci ha portato... era solamente nuovo, naturalmente. Era Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare. Ma quante cose hai fatto? Ma, più di te, Sandra, molte più di te. No, quello ma non giurerei. Anch'io, dai. Insomma, era il 1980, abbiamo chiesto a mio fratello di fare piccoli ruoli. No, all'inizio ero il tecnico, dovevo fare solamente. No, poi dopo poi ha fatto lo schiavo, dallo schiavo Zorro. Tex. Erano tutti piccoli ruoli che entravano. Entra Giulio Cesare diceva, chi fuma avvelena anche Tex. E lui entrava con le pistole, digli di smettere. E se ne andava, che era una per pubblicità. Per dire quella battuta veniva la febbre, perché era talmente... Però, la cosa che magari, scusate se la racconto io, oppure di te, Claudio, dovevamo fare pubblicità allo spettacolo, non avevamo il manifesto dello spettacolo da mettere lì in vetrina. No, meglio, l'avevamo, ma era solamente disegnato a mano ed era uno solo, naturalmente. Allora, siccome era uno schiavo che in punta di piedi, con le scarpette in mano, faceva col dito ed era Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare. Per cui abbiamo pensato di fare una cosa, raccontala tu, Claudio. Hanno pensato che, dato che c'era una vetrinola, diciamo, fuori dal teatro, di mettermi dentro la vetrina, chiudendo la vetrina, esatto, con le luci neon, per fortuna, perché almeno quelle non fanno calore, e dentro con la stessa posizione immobile dello schiavo della locandina, perché secondo loro la locandina era talmente famosa che, rivedendo a me, pensavano che la gente collegasse. No, ma non invece era per quella, perché era divertente. Invece l'idea stava diventando un'idea molto nuova, se ci pensi, innovativa. Infatti, per arrivò l'epoca. Subito un'ordinanza del tribunale dei minori e mi mise tutti in galera. Esatto, perché Claudio non aveva il permesso, non avevo neanche il permesso. Infatti oggi mi hanno tolto dalla locandina vivente, perché hanno detto, ma lui se ci beccano ci arrestano. Non solo, no, per... non è andata per questo motivo. No. Allora, ve lo dico io. Zitto, ecco. Vabbè, a un certo punto arriva qualcuno nei camerini, non gli spogliatoi, scusate. Arriva qualcuno nei camerini e dice: oh, guarda che là dentro c'è quel ragazzino che sta piangendo dentro la vetrina. Perché io subivo tutte le loro, naturalmente loro erano già più adulti di me, naturalmente, quindi essendo più piccolo non sapendo che cosa stavo facendo, però ci rimaneva e per forza era chiusa a chiave la vetrina, era chiusa come una locandina, e da lì si capiva già quello che era il mio futuro, perché tu sei buono, subire le cose degli altri. Ma lui è buono, lui è buono. Dopo sei anni si sacrificava, dopo sei anni di Allegra Brigata, che era Sandra Milo, lui sì, poi è andato per gli affari suoi dopo anche un anno di GB Show, due anni di Gino Bramieri Show. Come no, sì, adesso se lo racconti talmente, quando dici che hai lavorato con Sandra Milo e con Gino Bramieri, si può dire che hai detto tutto proprio già, no? No, noi abbiamo lavorato insieme, devo dire una delle cose più belle di lavorare con Claudio è che riusciamo a inventare, a improvvisare lì sulla scena come se avessimo provato, anzi una volta abbiamo fatto uno spettacolo che l'abbiamo provato in macchina andando al teatro, si intitola Essere Sandra Milo ed è uno spettacolo che parla della sua vita. Infatti quando lei racconta le cose, non è che parlavo da sola, cioè sai, ma da sola dice quello che gli pare, esatto. No, cioè, c'erano delle persone con le quali dovevo, e poi dei tempi da rispondere. Io facevo il ruolo di Fellini, come tu si facevi chiama? il prete come al solito, suo marito io facevo tutti uguali. Lo spettacolo bello che avete fatto insieme era Otto donne e un mistero, tratto dal Sandra film cantava. Di Ozon, sì, canta anche bene. Perché Sandra ha un... No, lei non sa cantare. No, io canto malissimo. Eppure quel giorno cantava bene quando ho visto lo spettacolo. Perché lei... Era doppiata, no. Ma Pino, ti adoro, perché guarda. Donna... Però vedi la magia, che cos'è questo. Cantar male e apparire di cantar bene. Sembrava, no, era intonata. Era una canzone di Rossana Casale, completamente stonata. Non tu non canti niente. Mai sotto la doccia, cioè... sempre sì, che cosa canti? Nessuno. Vai, ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi col vento fra le rose. Andiamo bene, i tecnici ce ne sono andati già, hanno chiuso. No, è la cosa che mi è venuta in mente, però insomma e ride. No, è brava, sì, io l'adoro. E quindi vabbè, dopo la mia esperienza con la Lega Brigata io poi sono andato per conto mio, per fortuna, perché avevo bisogno di soldi. E quindi ho cominciato a fare anche l'autore, però poi quando ho letto che esisteva Neil Simon, Ray Cooney e Alan Ashburn, ho detto meglio che faccio i testi di questi grandi artisti. Ma tu sei bravo come autore, sei bravissimo. Lei è la fan numero uno. Ma si io sente, sono una sua fan, per cui non parlate male di... No, di mio fratello. Parlando bene, pensa. No, critiche si accettano. Poi lui ultimamente ha fatto delle cose, credo uno degli spettacoli più belli è questo a Milano, Jersey Boys, sì, tratto da questo musical, cioè è il musical, quello americano. Che bello l'idea di Frankie Valli. Oh, va a Parigi! Va a Parigi! L'ha detto lei, andiamo a Parigi alle Folies Bergère, perché lo spettacolo e adesso ho saputo da poco che è stato comprato anche al Casinò, perché la tua regia, la regia originale e tutto quanto, con forse con gli attori francesi, però al Casinò. Meraviglioso, ma è difficilissimo nessuno per sa... gli italiani andare in Francia in teatro, no, perché, esatto, loro sono si considerano giustamente teatro, i numeri, no, uno, sì, vabbè. Frankie Valli poi e questi Jersey Boys, molta gente non conosce esattamente la loro storia, poi un italo-americano ovviamente con delle musiche straordinarie, uno dice ma è infatti sua, la cosa assurda è che lui è italiano, è italiano, quindi ha avuto successo. Puoi fuori. Cercare, caro Valerio, di Jersey Boys e poi ti dico cosa la mettere musica. La colonna sonora di Jersey Boys. Ce ne stanno, insomma. Però la cosa strana è che tutti mi dicono: ma tu fai uno spettacolo talmente straniero che non hai paura. Io ho detto: ma non è straniero, perché parla di quattro italiani. E lo so, ma non lo conoscono. Poi l'hanno visto e hanno apprezzato. E poi hanno apprezzato tantissimo lo spettacolo del Rank. Ma devo dire qualcosa a proposito degli italiani. Sono andata a Rimini al Grand Hotel. No? Strano. Allora, la notte non mi ero portata un libro, non posso dormire se non leggo. Ah, pure io. E ho chiesto un libro. C'è il portiere: sì, venga, abbiamo la biblioteca. Ah, meno male, che bella cosa. Tutti i libri inglesi, tedeschi. Dico: scusi, ma io non le parlo queste lingue, non posso. Dice: ma di italiano non c'è niente. Dice: no, perché gli italiani non leggono. Infatti, no, è vero, leggiamo poco. Devo dire, i radioascoltatori di Radio 24 di libri inglesi di più, e tedeschi, non c'era un libro italiano. E tu non ti sei addormentato? Ha letto uno tedesco? No, poi alla fine mi ha dato un libro suo, che era un libro della del Daddario. Della Daddario, ho detto la storia tua con Berlusconi e finalmente ho capito cosa significavano le farfalline. Ah, guarda che siamo e qua mi zitto. Sì, perché stiamo andando in pubblicità. Beh, io starò zitto pure durante la pubblicità. Anche mio fratello, il consiglio sta buono, perché qualsiasi cosa che diremo sarà rivolta contro di noi nel prossimo blocco. Capito? Per cui, signori, restate con noi, con Claudio Insegno, con Pino Insegno e con Sandra Insegno. Io chiamo mamma, quindi lo sai. Quasi. E con Sandra Milo è un percorso. Io credo che dovrà tornare, Sandra. Mi sa di sì. Sì, dovrà tornare perché. Perché solo lo spettacolo nostro dura 1 ora e 40, quindi voglio lo dire. Lo so, ma questo poi anche per me è per chiudere un po' in bellezza, perché mi cacceranno via da Radio 24. Sicuramente. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Sauna da Ciro a Cocoruno. Basta la numero di mille euro, ma non vanno pure a Ciro. Il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci, non abbiamo aperto bocca durante la pubblicità di mio fratello per paura che Sandra potesse riportasse. No, invece veramente percorriamo un attimo la vita di Sandra, ci cioè, vogliono 12 puntate. Te l'ho detto, guarda, lo spettacolo però, dura tanto. Allora, cominciamo... tu debutti vicino proprio ad Alberto Sordi, nello Scapolo, nel 1955. Mi parli un po' di quell'esperienza. Ah, nel 55? Sì, ti ricordi? No, non me lo ricordavo. Sono 61 anni fa. Di Alberto. Perché sai, intorno ad Alberto Sordi, noi abbiamo la fortuna che nostra zia, che è la sorella di Maurizio Arena, la che cicciola. È Rossana Di Lorenzo, è la prima Erminia dei film di Sordi. Anche ho fatto un film anche con Maurizio Arena. Sì. Era nostro zio. Il nostro zio, pensa. Hai capito? Sì, Dio gli ha dotato di tutto lui e di poco noi, comunque. E... com'era? Come è stata questa esperienza? Come sei stata scelta e soprattutto com'era Alberto Sordi? Io sono stata scelta perché ero fidanzata col produttore. No, l'applauso per cortesia. No. C'è l'applauso registrato? Eccolo. Vabbè, la ola, dai. No, su. Vabbè, non no, è un vabbè. Titolo di merito, però insomma. No, vabbè, vabbè, ho capito, ma c'è gente che dice mi hanno scelta perché sono stata brava, eccetera. Cioè qui c'è la standing ovation, cioè io neanche questa fosse una delle puntate non mai più avuto, belle sì, queste era poi sono... era l'ex fidanzato di Silvana Pampanini. Ma pensa sia Silvana Pampanini adesso. No vabbè, fermi tutti. Vabbè, però passiamo avanti questa cosa, scusa, passala. Era la fidanzata del produttore e me odiavano. Certo, c'è cioè i 22 anni. Il regista era Antonio Pietrangeli, un grande. E quando mi vedeva diceva ecco, eccola Eleonora Duse. Sentivo un verme. Venivo da Milano, no? Sento un po'. E ero così, insomma, avevo preso a fumare a Roma perché nessuno era puntuale, no? Io arrivavo sempre così, mezz'ora aspettavo tutti. Allora mi vergognavo, per esempio, ho cominciato con una sigaretta per darmi un atteggiamento. Poi ho smesso subito. Vabbè. Siamo in diretta con Sandra Milo, niente, devo ricordarlo. Allora, insomma, lui mi odiava. C'era però, per fortuna, c'era aiuto regista Franco Zeffirelli. Aiuto regista, sì, Franco aiuto di... sì, portava il caffè a Pietrangeli, sì, sì. Beh, meraviglioso, perché gli aiuti registi italiani questo hanno fatto, hanno portato il caffè con un'eleganza, con una, ma non era umiltà, era sempre era loro dovere, tranquillo, certo. Cioè, bellissimo. Poi, Franco so, Zeffirelli ha dimostrato poi quello che valeva, insomma, infatti, a parte il caffè. Infatti, e lui era molto carino con me, ma allora mi diceva come dovevo fare, perché io non sapevo niente, prima volta al cinema, perché io finivo, facevo la modella per il giornale di moda, no? Stai sempre zitta, il manichino, capito? Qui mi dovevo muovere, era diverso. Certo, il film è una cosa in movimento, certo. Certo. E tu eri protagonista insieme a Sordi nello Scavo? No, erano tre le protagoniste. Sì, una delle tre protagoniste. E facevo la hostess. E allora, e Alberto? Questo rapporto con lui come... meno male ragazzi, che non è vivo. Faccia. Ora io no, perché veramente Alberto ho un'ammirazione infinita, come tutti. Tutti, come tutti. Altro tutti. Monumento, normale, no, altro sì. Monumento. Ora, come attore. Certo. E per il resto no. Non ci piaceva, dici. No, non è che non ci piaceva, era molto diverso da me, capito? Cioè, per esempio, mi toccava il culo, non mi dava fastidio. No, vabbè, 2-0, ha vinto Sandra Milo, ha vinto. Beh, ti toccava il culo, mi dava fastidio. Vabbè, sì, certo, se lo faceva. Poi ero tutta, mi sentivo milanese, quindi tutta ma il produttore poi, insomma, si sarebbe arrabbiato. No, il produttore non c'è stava, no, ma mica me lo faceva davanti, logico. No, certo. No. Però lui sembrava normale, cioè come un omaggio, no? Voglio certo. dire, ma non lo faceva forse con intenzione cattiva. Certo. Perché quella parte che ho nominato prima, volgarmente, cioè diciamo, come il lato B, che il chiamare, lato B, bello. Lato B è una cosa assurda, vabbè. Il lato B è meraviglioso, specialmente nei bambini, no? Ti fa tenerezza, cioè quello una cosa sì. che uno tocca volentieri. Quindi probabilmente lui forse lo faceva questo. Con questo spirito, non lo so. Però a me mi dava fastidio. Esatto. Gliel'hai detto? Certo, facevo così. Se mi tocca. E ti toccava e le dette? No. No, non niente, non diceva manco niente. Mi interessava. Per cui il rapporto com'è stato durante le riprese? Bene, voi giravate, tu facevi la tua parte, lui allora, sua, e poi volevano per la pubblicità inventare una storia d'amore fra me e lui, no? Cioè, sai, quelle cose che lui si fidanzava sempre, poi non si sposava mai, però insomma si fidanzava. Allora ci mandano a Capri. Ci fanno delle foto con questo fotografo della casa, si chiama uno grosso, tutto vestito di nero. Andiamo a Capri sulle rocce, facciamo finta di buttarci di sotto, insomma, sai, Capri. Sì, l'atteggiamento. E poi naturalmente non eravamo fidanzati e non lo siamo mai stati. Però insomma non me lo ricordo come una cosa proprio idilliaca, sai, piacevole. Forse no. eri troppo giovane, produttore, no. lui ha considerato questo tuo stratagemma scorciatoia per il cinema e magari non ti ha considerato magari per quello che valeva. Poi ti dico, il regista che proprio mi detestava, mi trovava orrenda. Poi invece è scattato una forma di miracolo, mi dico sempre, io sempre miracolata, quello sì, grazie Signore Dio che mi miracoli sempre. Adesso sta parlando del Signore. E lui improvvisamente gli è scoppiato un amore artistico nei miei confronti. Infatti con lui ho fatto, non so se 4-5 film bellissimi, è no? È vero, non l'hai fatto, te li ricordi? Ho fatto, sì, che devo dire? Fantasmi a Roma. Fantasmi hai fatto a... di Pietrangeli. Ho fatto Fantasmi a Roma. E chi erano i tuoi colleghi lì? Dimmene un paio. Gasman, Marcello Mastroianni. Marcello, nessuno. Scusate, ragazzi, io vi adoro. Però no, nessuno. Ma ragazzi, come dice sempre: nessuno batte Marcello Mastroianni. Anche secondo me, mai. No, l'ho solo sfiorato. Mai. Nessuno mai, no, ma come persona. Poi a parte era attore, ma ci sono anche altri più belli, sì, non ma... lo so. Però la persona meravigliosa. Poi c'era Gasman, che mi ha detto uno schiaffone terribile. Ma in scena era scritto sul copione? Era in scena, io gli dovevo, perché lui doveva dire, dovevo posare per lui una Venere, doveva sì, posare. La Venere e di lui, sì, e lui non mi trovava abbastanza popputa, disse, no? E quindi e mi dice questa cosa, allora io gli do uno schiaffetto e lui mi risponde con una sberla vera che, vabbè, però una sberla di Gasman insomma fa sempre piacere, insomma. No, non mi faceva piacere. Mi facevano mai tutti i denti, no, però no. Il primo ruolo importante è nel 59 nel Generale della Rovere per la regia di Roberto Rossellini, un altro piccolo regista italiano, cui interpretavi il ruolo di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Sì. Molto drammatico, sì. Bello. E quando mi guardo dico, ma sono proprio io quella, sì, sono io. E poi con lui ho fatto Vanina Vanini come protagonista, che era però... tanto... Che però Vanina Vanini, eccolo, dillo su, avanti, è stato su. Il flop più grande della storia del cinema, dove lei naturalmente purtroppo ha deciso di ritirarsi dalla scena. No, scene. È momento, non è finita, non qua è stata... Come fu ribattezzata la protagonista? Canina Canini. L'hanno fischiata a Venezia, era a Venezia, mamma mia. Con Paolo Stoppa, che nel film faceva mio padre, un principe romano. La regia di chi era? E mi teneva la mano, mi diceva sempre lo stesso. Non piangere, sai, non piangere, stai qui. Io volevo scappare, no? E lui mi ha obbligato così. Da una parte c'avevo Laurent Terzieff che se ne fregava. Laurent Terzieff, grande attore. Bello, francese. Sì, francese. E lei strano, ha abbandonato le scene da lì. Beh, io no, che ho abbandonato le scene. Il giorno dopo andai a fare il bagno lì al Lido. Il giorno prima avevo 20 accompagnatori. Il giorno dopo nessuno nemmeno mi salutavano. Perché il cinema italiano, lasciatemelo dire, è anche questo. Se fai un successo successo, tutti ti amano, ti adorano. Se fai un fiasco, Dio mio, girano la faccia quando ti vedono. Io credo, Sandra, che questa proprio sia proprio il minimo comune multiplo della vita, no? Il successo ha tanti padri e l'insuccesso è orfano. Questa è. Non è mia, purtroppo, ma... Di chi è? Non mi ricordo. Ah, beh, però è bella. Però me la disse Costanzo un giorno, quando andavano le cose fatte bene, e io dissi a Maurizio, dissi, beh, hai visto quanta gente adesso che ti vuole bene, che ci vuole fatta bene, amico, perché il successo c'è tanti padri, il successo è orfano. Mi disse questa frase, poi non so da dove è tratta, ma queste sono quelle frasi che uno si tramanda, come quello che dice mia zia, nostra zia, delle persone inutili, dici a quelle buttarla in peccato, ma tenerla, che ce fai? Che è bellissimo. Invece noi ci riteniamo sia Claudio Insegno che Sandra Milo, a tra poco con Voi Sanato. Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un'autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Eccoci, signori, veramente una puntata interessante. È una puntata sulla voce, no? Dici sempre. Sì, no, però... beh, Sandra Milo è la vabbè, voce. Ma io no, però, questo è il problema. Io sono la voce del dottor Hibbert, però quello mi sta dando molto successo. Dei Simpson, ma rimorchio tantissimo. Anche Gonzo, dei Muppet. Ma non è solo voce il doppiaggio, voce anche l'attore. Certo. Voce il cantante. Sì, no. Anch'io, tra l'altro, come attore che ho fatto film, come diceva Sandra, film bellissimi, tipo I miei primi 40 anni di Vanzina. Ah, però sono stato doppiato da Pino Insegno, questo è il problema grave. È vero, t'ho doppiato io. No! Quindi sì, il caso ha voluto, infatti, sì. Io faccio il mio primo film della vita a che erano 22 anni, mi chiama Vanzina, mi fa sei perfetto, ti voglio in tutti i miei film. Invece da lì in poi sono partito per il militare. E dato che mi hanno chiamato per doppiarlo, io ho detto: ma come faccio a venire da Brescia? Poi mi arrestano. Se vengo, mi arrestano. E ho detto: ci pensa tuo fratello. Lui non era un doppiatore all'epoca, però. Ma perché? Ma ma non eri un doppiatore vero, diciamo. Ero bravo. Però insomma, io dico: doppiavo i porno già da 3 anni. Sì, certo. Infatti, io facevo un film porno, però io. Io dicevo 2 o 3 battute e lui mi ha doppiato. Poi quindi lui io ha fatto un'altra film. Cosa indimenticabile, Claudio. Il fratello di Ali Hajka nell'Assassinio del Papa. Questo è un po' come l'avevo scordato, però. Facevo il fratello. Ma è una fiction. Devi sapere, Sandra, famosa, che i film miei, insieme a quelli di mio fratello, passeranno tra poco in televisione e si chiamano I Dimenticabili di Rete 4. Dimenticati, Sandra, che sono brutti. Sandra, Sandra, ma voi ne sa siete qualcosa. Due bravi attori, sì. Ma non voglio venire però, sopra le vostre voci, ma Sandra ne sa qualcosa che l'ha fatti pure lei, purtroppo. I film? Sì, c'è pure lei, ospite come guest star, c'è dove? Sempre, in tutti i film che abbiamo fatto. No, nel mio perché no, mezzo Sandra... destro, mezzo sinistro. No, quello tuo no, ma i miei due primi film sì, perché lei sempre, anche su Alta Infedeltà. E orgogliosa di esserci stata. Ma Sandra, vuol dire, si sa che questo... E se al prossimo non mi chiami, adesso parto tuoi, per un prossimo film e vieni anche tu, lo sai. Dovrebbe venire anche mio fratello se si comporta bene. Se me paghi. E quindi diciamo che io la voce ce l'ho messa nella mia arte. No, ma adesso tu devi anche scappare, perché devi andare al nostro amico comune che avremo presto ospite in trasmissione, non diciamo niente, ma certo, grandissimo anche che lui del cinema. Che però di questo lei deve raccontare un aneddoto del padre, l'ho detto. Ha detto chi è? Sì, di Vittorio De Sica. Oddio, qual è? Quello di quando io... Ah, sì, allora, eravamo oddio, in Spagna. Sì, prego. No, lo facciamo nello spettacolo, che io dico, ma tu, sono tutti innamorati di te, ma tu anche ti innamoravi di alcuni attori, diciamo, e poi c'è anche qualche attore come Vittorio De Sica, regista, che era un Tom Bird fan, quindi sapeva come far innamorare le donne. E che è lei... successo? Allora, due cose, una su De Sica, poi una su di me, breve. Sì, sì, ma tanto ci abbiamo tempo. C'è tranquillo. Tempo? Ah, sì, abbiamo altri due blocchi ancora insieme. Poi arriva la polizia, lì finiamo, ma insomma, ancora abbiamo tempo, vai. No. No, non diffamiamo no, nessuno. No, nessuno. No, no, no, no. Allora, eravamo in Spagna, Algeciras, nel sud della Spagna. Sì. No? E facevamo la donna che venne dal mare, che ero io. E De Robertis, comandante di Marina, raccontava la storia dei nostri uomini rana durante l'ultima guerra mondiale. No? E delle azioni estremamente coraggiose che avevano fatto a... Il fronte Algeciras se c'è... Beh, c'è cosa, se è Tor Bella Monaca. No, non lo so, Tor Baianica, non lo so. Oh, Madonna, l'Inghilterra. Ah, sì. Stavo pensando tutt'altro. Le scogliere di Dover, non lo so. No, le scogliere di Dover. No. E allora, di queste azioni. E lei è una donna polide, così. Vabbè, niente, la storia non importa. Allora, io sono lì e... Insomma, c'è un ragazzo bellissimo. Io ero sempre fidanzata col produttore. Col produttore, sì. E c'è un ragazzo bellissimo, spagnolo, un pescatore, l'avevano preso per fare uno di questi italiani che andava a fare queste azioni. Certo, di uomini rana. Esatto. E insomma, ma sarà stato il sole, che ne so. Cioè, che ha preso l'insolazione. Il fatto che la sera suonavano le chitarre, andavamo, sì, a bere vino, c'è anche poi, ovviamente c'è un sacco di elementi, insomma. Il grande Vittorio. E stava lì con Maria Mercader. Bellissima. Allora io, insomma, mi innamoro perdutamente di questo. Lui mi dice: devi restare in Spagna con me. Io allora lascio. Questo è il pescatore. Sì, vabbè, farò la pescatrice anch'io. Vabbè. e allora poi ha detto: ma mo chiedo consigli a De Sica. No? Per me era veramente il maestro, non più che il maestro. Insomma, allora dico: senta, maestro, io ho un problema veramente. Vorrei parlarne con lei, però non so come fare. Figliola, parla, dimmi pure cosa che ti angustia. Maestro, io mi sono innamorata. Ah, sì? Ah. E beh, certo, non è una cosa semplice. E no, perché io volevo sapere da lei. No, cara, perché io sono con Maria Mercader e quindi non posso. Lui pensava che ce l'avessi con lui. Io gli volevo dire: ma scusi, ma non è di lei, per me è un vecchietto. Mi sono innamorato del pescatore io. Quello, quindi bello, lui ancora non lo sa. Biondo, per cui De Sica non l'ha mai saputo. Non l'ha mai saputo, ha sempre saputo. Non c'ha avuto il coraggio di dirgli: no, non si tratta di lei. Dico: non... ah, vabbè, pazienza. Così è finito. Tu non hai mai più lavorato con De Sica da quel momento, sì, in poi. Ah, ci ha lavorato ancora. Ha fatto il generale della Rovere, certo, che poi ha vinto il Leone d'Oro a Venezia. No, poi ha lavorato con Totò. Voglio dire, bella. No, ma dobbiamo. Noi andiamo avanti. Se tu che vai via. Io purtroppo devo salutare questa splendida compagnia. Sì, ciao Claudio. Voglio lasciarvi la voce, la mia voce. Sì, tornerai, perché almeno parleremo pure un po' sì, di te, certo, quello che stai facendo. Senza Sandra Milo, purtroppo. Sì, no, perché lei è protagonista. Ah, no, perché io volevo tornare sempre con Sandra, va bene. Insomma, la sua storia schiaccia qualsiasi altra storia. Ciao Sandra, ciao Pino, ci vediamo, ciao, a casa. Gradino. Forse sì, a casa. Non ti voglio. Guarda che noi ci dobbiamo vedere presto. Sì, lo so, dobbiamo fare un film. Scusate, siamo per radio, No, dobbiamo prendere un tè. Vogliamo prendere un tè? Scusate, siamo per radio, vi telefonate dopo. Tu rimani. C'è il telefono, sì, Sandra. Sì, ah, sì, era, c'ho il cellulare, ce l'ho. Ciao, grazie. Lei è Marilyn Monroe. Ciao. È così. Ciao Claudio. Sandra, siamo io e te. Te ne andava, fermi, siamo in diretta. Mi stava a levare le cuffie. No, non ti levare le cuffie, Sandra. Siamo io e te adesso, la tua spalla sta andando perché c'è un appuntamento di lavoro, per cui lo lascio andare. Sandra, che vita affascinante, ma soprattutto vissuta con questa leggerezza, che è una leggerezza che non è superficialità, è una leggerezza calviniana, che è molto più profonda e tridimensionale, perché tu vedi, come lo racconti adesso con grande serenità, le tue avventure, le tue storie, eccetera, lo racconti con quella stessa ironia, credo, con cui l'hai vissuta in quel momento. Non è un'analisi postuma di quello che hai combinato. E poi è arrivato il momento, credo, più importante. Cioè, intanto voglio sentire, visto che abbiamo scaricato alcune cose che ti riguardano, proprio di Pietrangeli, Mauro Meconi ha trovato un momento tratto da La Visita, un altro film bellissimo che hai fatto con Pietrangeli. Sì. E allora noi ce l'ascoltiamo. La signorina Pina. E lei il signor Adolfo? Ha indovinato. che pace qui. Signorina Pina. Sì? Non crede che potremmo darci del tu? Se crede, con piacere. Si sta proprio bene così. Con te. Anch'io ci sto bene. Con te. L'ammazziamo. Andiamo, va. Adesso che ti senti meglio, se vuoi, possiamo parlare. Parlare? Sì, certo. Ma che ci dobbiamo dire? Chi era lui? Lui un grande della commedia francese. Lui era François Perrier. Ah, Perrier era doppiato ovviamente qui. E beh, per forza, francese, certo. Sì, mamma, è straordinario. Te lo ricordi? Tu ti sei ridoppiata qui o eri in presa diretta? No, è presa diretta. Però vedi che bel lavoro. Sì, noi italiani con la presa diretta non siamo bravissimi. Beh, dipende poi, perché però se lui era doppiato e tu in presa diretta il messaggio era ottimo, eh? Sembravate tutti e due doppiati, no? No, mi dice abbiamo poi doppiato, no, ah, ti sei doppiato. Perché si girava come se fosse la diretta. Io che ho cominciato in Francia a lavorare, no? Prima che in Italia, insomma, ho avuto successo là. E lì veramente facevano la presa diretta vera, insomma, devi parlare francese, studiando. Tu parli francese? Parli francese? Sì, ma non è quello la cosa difficile. La cosa difficile è parlare con l'accento parigino, quello che vogliono loro. E con perfetto, le intenzioni giuste, è vero. Però insomma ce l'ho fatta. E lì era sempre presa diretta. Ma pensa tu quanti anni fa? Allora, 50 anni fa? 50 anni fa, esatto. E andavano in diretta. Noi no, non ci riuscivamo. Perché c'era sempre qualcuno che parlava, che diceva, no? Parlava di quando si mangia, quando nella pausa. Però abbiamo, no? Insegnato un po' a tutti a far cinema, dai, noi. No, dai. Siamo i cugini francesi. È il più bello del mondo. Il più bello del mondo. I cugini più francesi bello. Sono bravi, perché nulla da eccepire. Ma non come, noi, abbiamo quella spinta in più. E poi nel 62 reciti Nel giorno più corto di Sergio Corbucci, che c'erano anche qui attori straordinari, c'era Totò, Edoardo e Peppino De Filippo, Cotognazzi, Aldo Fabrizi. Totò, un'altra icona straordinaria, com'era? Era un po' che non mi ricordavo questo film. Io con Totò ho fatto dunque 3 o 4 film. Com'era Antonio De Curtis? Beh, intanto te racconto l'incontro sì, con il lui. Primo incontro, certo. Allora eravamo alla Vasca Navale, sai, alla Ponte De Laurentiis, adesso sì. Naturalmente non c'è più niente. C'è. Ed era un film di Steno, il papà di Vanzina, sì. Che tra l'altro allora mi sembrava un regista un po' minore, no? Invece adesso riguardando le sue commedie sono bellissime, grandioso. Con dei dialoghi pazzeschi. Ma che scherzi. Vabbè, allora io faccio questo Totò sulla Luna, cioè Totò, io, Silva Coscina, Ugo Tognazzi, Luciano Salce, insomma, un bel cast. Sì. C'è nessuno. E io ovviamente, come tutti, ero pazza di Totò, no? Lo vedo da lontano, spicco una corsa urlando Totò, incontra lui Ciro, per abbracciarlo. Uguale. Un po' così, no? E lui, arrivo vicino e lui mi fa: buongiorno signorina. Si è bloccato tutto. Ma avesse dato una stilettata nel cuore, mi avrebbe fatto a meno. Cioè, io sono rimasta proprio un pezzo di ghiaccio, no? Ibernata, non so come dirti. Magari sul set lui non se la sentiva, era più serio, era magari nella vita quotidiana, no? No, sul set, visto, si mangiava pure, metteva gli spaghetti in tasca e poi se li mangiava, cioè, certo. Faceva di tutto. Meraviglioso, insuperabile. Però nella vita era il principe De Curtis, almeno con me. Però signori, ci sta che Tonio, che Totò poteva essere il principe. Ma per la prima volta ho scoperto che gli uomini portavano calze di seta. Guarda, te la faccio vedere adesso durante la pubblicità. Ce l'ho anch'io la calza di seta, te la faccio vedere. Davvero? Sto scherzando, dai Sandra! A tra pochissimo, sempre con Sandra Milo, qui a Voice Anatomy, a tra poco. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24. Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non, in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Voice Anatomy. Eccoci ancora con la nostra amata icona Highlander, Sandra Milo, che io ringrazio per tutta la simpatia, l'ironia con la quale sta portando avanti questa bellissima intervista, che devo dire, non solo io, normalmente sono io che dovrei mettere a proprio agio i miei ospiti, invece è qui, in questo caso è il mio ospite che sta mettendo a nostro agio tutto lo staff di Voice Anatomy e tutto di Radio 24. Stai parlando di Totò, un'altra persona che hai incontrato, sì, e con la quale hai condiviso. È bello parlare con te, anche perché, come hai detto tu prima, chi c'è che sta facendo sto mestiere da 70 anni? Nessuno, sono l'unica. Tu, per cui puoi dire tutto ciò che vuoi. È vero. E poi sono vere. E poi arriviamo finalmente a Federico Fellini. Nel 63 tu hai fatto nei due capolavori, Fellini 8 e mezzo e Giulietta degli Spiriti. Interpreti proprio una femme fatale, ironica e disinibita. In entrambi i film vinci il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Questo è un momento, lo sliding doors della tua vita, dove è cambiato qualcosa, insomma, dall'attrice giovane, inesperta, comunque bella, comunque, come hai detto tu, fidanzata all'inizio del produttore. No, ma io avevo già perso la Coppa Volpi a Venezia per Alberi e Compagni per un punto, sì, me l'aveva soffiato la Shirley MacLaine, io ero già bravetta. No. Però bravetta. Via, sì, bravetta, sì, sta a Roma. Però avevo fatto Vanini, avevo lasciato il cinema perché nessuno mi voleva più. Come hai detto prima, c'è stato questo flop gigantesco. E allora il mio compagno mi disse: vedi, non ti vuole nessuno. Io dovevo fare cominciare, io la conoscevo bene, con Antonio Pietrangeli. Certo, Pietrangeli, che lui aveva scritto per me, avevamo che già fatto i provini. Stefania Sandrelli, chi l'ha fatto? Stefania Sandrelli, giusto, Sandrelli. Magistralmente. Comunque il film era mio. Certo. E invece il noleggio, allora si chiamava così, disse: no, la Milo non sa recitare, no. E tutti, erano tutti, no, tutte porte chiuse. Allora lui, io, un esaurimento, mi sono ammalata, perché il cinema era una passione. Ma no, ma poi prendete in qualsiasi lavoro uno faccia, anche se fai il medico o l'avvocato, al momento che ti chiudono le porte in faccia, hai il rischio di la depressione dietro l'angolo. Ma insomma, poi voglio dire, un errore, vabbè, è normale, cioè voglio dire, non si può essere sempre perfetti, no? E vabbè, niente, quindi ho lasciato il cinema e allora, siccome sono un artista, ho cominciato a scrivere poesie, libri, a fare statue, cioè, comunque vivevo una mia dimensione artistica. Comunque passa un anno, due, non so, finalmente io mi tranquillizzo, non penso più all'amore, al cinema come un amore. A quel punto mi viene una telefonata, mi dice: Fellini vorrebbe fare il provino per 8 e mezzo. Dico: grazie, molto gentile, ma io non lavoro più nel cinema, quindi non se ne parla. Come ho detto no, questo si è scatenato, ha cominciato da Rizzoli, da uno, da altro. Io voglio fare il provino alla Milo, allora lui chiama il mio fidanzato, che comunque era ancora produttore. Dice: guarda, se tu vuoi darmi i tuoi film, vuoi che io te li distribuisca, la Milo deve fare il provino per Fellini. Allora lui mi dice: guarda, devi fare. Io parto, vado a Ischia, che era inverno, perché ho detto: no, io se non sto qua tutti mi rompono le scatole, vado a Ischia, non li nessuno. Sei proprio scappata. Sì, sì, non lo volevo, no, basta, non lo faccio più, non voglio più soffrire quello che ho sofferto. E vado a Ischia. A un certo punto mi raggiunge il mio compagno e mi porta un bellissimo paio di orecchini di brillanti di Bulgari e me li regala. Allora io lo guardo con sospetto. Perché? Sì, no, perché lui era avaro, capito? Ma perché mi regala? Era avaro. Ma perché mi regala gli orecchini di brillanti che a me qui a Ischia? Che non è neanche l'anniversario, oltre, né la tua festa, no, niente. No, ma poi non me li regalava proprio. E quindi mi spavento un po'. Allora lui si arrabbia. Dice: ma insomma, ti ho portato... Vabbè, ma che vuoi? Dice: tu devi venire a Roma e fare il provino per Federico. No, io no, tu devi venire. No. Insomma, sono venuta. lui è venuto a casa mia con tutta la Gianni Di Venanzo, Piero Gherardi, sai, i grandi di allora, no? Sì. E mi hanno fatto questo provino. E lui mi ha detto: Sandra, ce l'hai una chitarra? E io, lui serio, no? E io serio, no, però c'ho un gatto. Ah, dice, va bene. Uguale. Ma è una cosa, sai le cose che vanno in un'altra dimensione, sì. Vivi, no? Allora mi diceva, va bene, prendilo. Allora io sono andata di là, c'avevo un gatto di peluche enorme, pareva una zebra, sai, tutta la. Ma era finto, era un gatto di peluche? Finto di peluche! Pensavo era vero, vabbè. No, è un gatto. Torno finto. Di qua con sto gatto, lui dice, va bene, tienilo sotto il braccio. E io me lo metto sotto il braccio. E cominciamo a parlare. Bene, stop. E se ne vanno. Ho detto, meno male. Questo è stato il provino. Sì. E poi invece mi chiama due giorni dopo, che Federico aveva scelto me e voleva me. Che bello. Per Carla, no? Che doveva rappresentare l'amante ideale degli italiani, insomma. Certo. E ho fatto questo personaggio bellissimo di donna così. Questo parliamo carne. Di 8:30 stiamo parlando. 8:30. Allora sentiamocene un momento perché lo abbiamo un pezzetto di 8:30 e poi continuiamo a parlare di con la musica cantata da Milo di Nino Rota. Beh, ragazzi, hai ispirato nessuno tu, eh? Vai. Fai più buio. Sì. Ecco, così. Adesso esci fuori nel corridoio e dopo un po' rientra come se sbagliassi camera e trovassi uno sconosciuto. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. Ferma così, fatti un po' vedere. No, no, ci vuole un trucco più... Più come? Più da porca. Vieni qua, dammi la matita. Stai bello ferma. Questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prenderlo per casa ferma. Mia. Come si chiama questo albergo? Della ferrovia. Ah. Voglio scrivere a mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere. Sì, sì, ma se non stai ferma, non... Fai la faccia da porca. Fai la faccia da porca, detto da Marcello Mastroianni. Cioè tu eri tra parentesi in mezzo fra Federico Fellini e Marcello Mastroianni. Ma due geni proprio, guarda, incredibili. Poi bellissimi, in quel periodo Federico era bellissimo, Marcello è sempre stato bellissimo. Che lui non ha mai detto di essere, lui non amava questa definizione di essere un Latin lover. Marcello Mastroianni si considerava un uomo qualunque, normale. Sì, e sì, credo era la sua grandezza, la sua forza, perché poi le donne erano pazze per lui. No, io no, io lo adoravo, un amico straordinario. Mi piacerebbe raccontare una storia sua, però non so. Vabbè, se puoi dirla, se si può, dirla, tanto resta fra noi 600.000 persone. Vabbè. E lui, eravamo molto amici così, no? E lui a un certo punto stava con la Faye Dunaway. Sai, quella specie americana. Attrice straordinaria, sì. Però lei, da americana, gli chiedeva il matrimonio. Il matrimonio diceva, sì, ora chiede a Flora il divorzio, ora chiede a Flora, diceva lui. Invece sì. Lui, Flora non voleva divorziare. Non si è mai lasciato, niente. No. Sempre mille amanti, ma la moglie era Flora. Allora, e belle però erano innamorati così. A un certo punto si danno appuntamento a Parigi, al Ritz. Lui arriva e trova lei che ha fatto le valigie e se ne sta andando. Dice, ma Faye, me l'ha raccontato lui, Sì, sì, sì. Faye, lei gli ha detto, guarda Marcello, basta, non ti voglio più. Dice, come? Ma che dice? Sì, basta, sei un bugiardo, dice sempre che fai il divorzio, non è vero, non so, ma io mi voglio un marito, così. In quel momento Marcello, lui mi dice, no, realizza di essere innamorato veramente di Faye. E capisce che quella è la donna della sua vita. Finalmente ha trovato l'amore. Allora non lo vuol perdere. E dice, no, guarda, questa volta davvero io divorzio faccio. Ma lei non ci crede più. Allora lui si butta per terra, steso ai suoi piedi, perché lei non se ne vada. E lei, con le sue lunghe gambe, lo scavalca, esce dalla porta, manco l'ha chiusa, e se n'è andata. Mamma mia. Però, Marcello veramente è stato amato da tante beh donne. Marcello, tutte le donne, non sai per esempio Anouk Aimée come piangeva per lui, che era una donna meravigliosa. Bella. Di cui gli uomini impazzivano per lei, ma lei moriva. Ma era la sua grandezza, credo. Marcello Mastroianni era semplice, ma una semplicità è come la leggerezza di prima, non la leggerezza superficiale. Io ho visto tutto, letto tutto, ho ascoltato poi soprattutto l'ultima intervista di questo documentario meraviglioso. Mi ricordo, sì, io mi ricordo della sua compagna, della Tatò, Anna Maria, sì, sì. Ed è bellissimo, bellissimo. Ho anche fatto in televisione un'intervista con lui che non c'era, che mi rispondeva. Davvero? A un'intervista, sì, l'ho fatto anche a teatro. Perché parla della vita in maniera meravigliosa. Meravigliosa. Ed è bello. È una stato poesia, bello. Ma una poesia semplice, no? Che arriva a tutti. Sì, lui amava il cibo, per esempio, moltissimo. Ma il cibo non così che si mangia e poi si consuma. Il cibo perché è una cosa preziosa, meravigliosa. Forma d'arte, sì. Anche il cibo, no? Ma sì. Lui era uno che amava la vita carnale, per cui il cibo cammina parallelamente. Dice delle cose bellissime. Dice, vedi, quando sei giovane, la fine sembra così lontana, e poi quando arrivi. E lo dice da anziano, già lo dice, e poi ti accorgi che la vita è volata così, come un vento. E poi dice, come dice un vecchio saggio nativo americano in indiano, dice, ricorda tutto questo, perché tutto quello che dimentichi si perderà nel vento. Ma una poesia, quel documentario su di lui che io vi consiglio di cercare, mi ricordo, è proprio un percorso nell'indole. Anna Maria? Sì, quello che ha fatto Anna Maria Tatò. Che l'ha dato anche a Venezia, mi pare. Sì, no? Sicuramente, sì, sì. Ma è proprio una cosa bellissima. E tu hai condiviso con queste persone. Sì. Io ho fatto un film con Anna Maria come regista, con lei e Vittorio Mezzogiorno. L'hai fatto con tutti tu un film. Però me lo racconti tra un po' nell'ultimo blocco insieme, tanto torni. Perché abbiamo solo sfiorato la tua vita. Se non ci denuncia nessuno, se non ci caccia via nessuno, se non ma ci nessuno querela, ci no, querela, ma non credo, sì, nessuno no, ci può querela. A tra poco, per chiudere insieme questa bellissima puntata di Voice Anatomy con Sandra Milla. Tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Voice Anatomy. Ed eccoci, è volata questa puntata, eppure sono 6 blocchi che siamo insieme con Sandra Milo, più di un'ora, ma ho strappato una promessa, sarà per l'affetto che ci lega a livello di famiglia. Sandra tornerà anche con altri ospiti, perché parlare con lei anche di rimbalzo, con altre situazioni, altri momenti dello spettacolo è fantastico, perché sono arrivato soltanto a 2 o 3 domande, perché all'ultimo i tuoi racconti, la tua storia è così interessante, così vera, e che poi vai qui veramente dentro il personaggio, nel senso buono del termine, perché raccontare queste persone, insomma, poi comincia questo sodalizio con Federico Fellini. Io ho sfiorato le due persone, Mastroianni dormiva con una sigaretta in bocca all'International Recording, io sono passato vicino, volevo inginocchiare di fronte a lui. La grappa vicino. Sì, io con la sigaretta così e lui sta lì. E Fellini ho doppiato, l'unico film italiano è Ginger e Fred, perché volevo conoscerlo. E lì non c'era né il copione né niente, pensa a 13 turni che normalmente io posso doppiare 2 film, io come i miei colleghi, con 13 turni ho doppiato soltanto un barista di Ginger e Fred, perché lui arrivava a una certa ora, se ne andava 2 ore prima, poi disegnava, poi parlava senza copione, disegnava delle cose, il suo assistente le portava subito via. Tu invece ce l'hai da parte i disegni di Federico. Ma non pensa, perché io sono una donna molto generosa, ne ho avuti tantissimi, li ho regalati tutti. Poi mi chiedevano, me lo dai, tu tanto per lui sei... Tu per lui sei stata un'icona per Federico Fellini, ti ha disegnato. Io per lui sono stata l'amore. L'amore. Come lui per me. Ecco, questa... Detta così, la pausa che c'è stata non sarà radiofonica, ma credo che quello che ha detto adesso Sandra, e l'ha detto con gli occhi, non serve un esperto di comunicazione non verbale o programmazione neurolinguistica per capire l'emozione che sto leggendo attraverso gli occhi di Sandra. Lui era per te l'amore e tu eri per lui l'amore. E non è una mancanza di rispetto per nessuno. No. È così. No. No, perché l'amore merita rispetto più di qualsiasi altra cosa, e soprattutto vabbè, lasciati così, perché sì, adesso uno si accorge magari in questi momenti che il tempo è volato, ma non ha cancellato, credo che l'emozione che tu hai nel cuore in questo momento, in questo sguardo, sei diventata, non che fino adesso tu non sia stata vera, hai volato sopra le notizie che ci hai raccontato, svolazzando con quella leggerezza che continua a ripetere che non è superficialità, ma con una leggerezza di grande intensità. Adesso però il tuo sguardo, che guarda verso il basso a sinistra, si sta reimmaginando e sta cercando di riportare in vita a livello tridimensionale quell'immagine che stai cercando nella tua memoria. Non voglio galoppare questa emozione, non siamo in televisione, per cui non lo sto facendo, lo sto solo raccontando, siamo per radio. Le immagini ve le state costruendo, il silenzio che sentite in questo momento, forse come ha detto Albertazzi nella nostra prima puntata, sono i silenzi la cosa più importante di un attore. Non sono tanto le parole, ma è come rende intensa una pausa. E questa pausa che state ascoltando di Sandra, io la sto raccontando vocalmente perché siamo per radio. Se fossimo stati per televisione sarei stato in silenzio a guardare negli occhi la mia amica Sandra e anche voi a guardarla lei. Siamo per radio e non possiamo lasciare il silenzio troppo per radio. E non voglio neanche cercare di sfrugugliare ancora di più questo momento. Magari in un'altra puntata insieme racconteremo che cos'è l'amore per Sandra. Che cos'è l'amore per Sandra? L'assoluto. Per me è sopra qualsiasi altra cosa, non mi importa niente. Io sono una donna che ha guadagnato tanto, ha perso tanto, ha dato tanto, ma non ho mai sofferto per quello che perdevo, no? Cioè, ho sofferto, però se perdevo l'amore, sì, quello sì. Cioè, è la mia forza. Quante volte la forza sei stata assoluta. Innamorata? Sei stata come innamorata. Con Federico, con mai. Nessuno. Quello è l'amore, l'hai detto, quello è l'amore. L'amore, quello è l'amore e non ha niente a che vedere. Questo non vuol dire fedeltà. Perché per me la fedeltà non è naturale, cioè è una costruzione umana, cioè è noi decidiamo di essere fedeli, no? Ecco, e quindi. Ma non è una cosa istintiva, il nostro istinto ci porta a desiderare le cose che vediamo, che desideriamo. La novità, a respirare un nuovo corpo, una nuova intelligenza. Beh, senti un'attrazione, sei attratto da quella persona così. E hai il desiderio anche di unirti, di avvicinarti a lui. Certo. Poi magari finisce tutto, non c'entra niente. L'amore è un'altra cosa, non ha a che vedere, non proprio non. E quindi dico: ma perché rinunciare? Del resto c'è pure una preghiera che dice: Dio mio, salvaci dalle tentazioni. Quindi le tentazioni esistono, certo, sono reali. Sì. Se ci sono, io chiedo a Dio l'aiuto di aiutarmi a resistere alle tentazioni. Sì. Faccio una cosa carina, ma perché devo resistere alle tentazioni? Stavo chiedendo, ma perché? So resistere a tutto tranne che alle tentazioni, come dice Oscar Wilde. Ma che senso ha, capito? Il mio istinto, che è la cosa più importante, no? Perché la mente, la ragione viene dopo. Certo. E domina l'istinto, tante cose. Però l'istinto è la cosa più vera che io ho, capito? Più naturale. Più. Se sommergi quella, sommergi te stessa. È perché non lo devo seguire. Ma lasciati andare. Leviamo sti microfoni, lasciati Sandra. Lasciati andare. Lo sguardo tentatrice della nostra sirena ammagliatrice, eccetera. Io voglio fermarmi qui, mancano 3 minuti, però voglio fermarmi qui a raccontare la tua storia perché voglio riaverti, nel senso ovviamente artistico del termine. Certo. Perché è stata una passeggiata breve, troppo breve, anche se è stata lunga radiofonicamente parlando. Grazie, ma Pino. Lunga, cioè tutte le cose brutte, corte, sono lunghe, ma una cosa lunga, bella, diventa breve. Tu sei una persona meravigliosa, guarda, sai perché? Sì. Perché sai ascoltare veramente, cioè tu allora quindi ti soffermi sulla cosa che ti sembra interessante della persona, perché l'ascolti, a differenza della stragrande maggioranza che parla. Vogliono seguire dei numeri di interviste o delle domande. No, con te si può rimanere è sulla prima. Perché rimani, capito, che hai un contatto straordinario, insomma, perché tu hai voglia di comunicare con me e io con te. Esatto, no? E nello stesso momento ovviamente l'osmosi è verso i nostri radioascoltatori. Ma voglio anche di farti a me le domande a te. È bello, tutto questo, si scambiano. La prossima te le faccio. Sì, ma tanto avremo modo di stare ancora insieme. Okay. E allora io, salutando Sandra Milo e ringraziandola ovviamente di avermi regalato questo tempo meraviglioso e questa intensità finale, se vuoi riascolterete nei podcast di Voice Anatomy questa avventura radiofonica con Sandra Milo, vi accorgerete questo crescendo drammaturgico interessantissimo e insospettabile, come siamo arrivati con quella leggerezza a raccontare poi l'amore soltanto dicendo la parola amore, ma in che modo l'hai detta. Riascoltalo anche tu quando potrai riascoltare i podcast di Voice Anatomy. E allora, visto che mio fratello se n'è andato, noi invece chiudiamo la puntata ascoltando un brano tratto da Jersey Boys, questo musical, l'ultimo bellissimo successo di Claudio Insegno a teatro, dove non mi ha chiamato perché sa perfettamente che non canto e non ballo, ma chiacchiero, ma quanto chiacchiero. Sandra, ti voglio bene, ti ringrazio. Grazie. Speriamo grazie di aver regalato un momento molto bello ai nostri radioascoltatori, ma soprattutto chi al posto tuo poteva raccontarci